C'était au temps où Bruxelles rêvait. C'était au temps du cinéma muet. C'était au temps où Bruxelles chantait. C'était au temps où Bruxelles bruxelait. Place de Brouckère, on voyait les vitrines avec des hommes, des femmes en crinoline. Place de Brouckère, on voyait l'omnibus. Ah, Bruxelles, Bruxelles, quelle notti d'estate a Bruxelles quando eravamo io, Frederick e Splendor World, mentre che guardavamo una luna meravigliosa sperando di vedere la Torre Eiffel, ma poi ci siamo resi conto di aver sbagliato paese. Il pallone era tondo, io corro dietro al pallone per quasi un milione o forse di più. Io sogno sempre il gol, sogno sempre il gol, però faccio il portiere. E buonasera a tutti, bentornati a Eurocalcio 2021, anche questa sera. Era qui 20. Per se- eh? Era 20. No, l'europeo è 2020. Noi ci distinguiamo e siamo 2021. Marco Gualdi. Questa cosa dei numeri che non combaciano mi urta profondamente. Lo so, ma è fatta apposta proprio per urtarmi. Per urtarti, esatto. Che schifo. Esatto. Walter Sbano. Buonasera ragazzi, bentrovati. Oggi sarò particolarmente in ansia, io ve lo dico, anzi se non parlo vi faccio anche contento se non parlo, però sarò lì a guardare, a sperare, a incrociare le dita. Paura, paura. Le stupide creature. Applaudite, applaudite. Ave. Le stupide creature che non mancano mai, sono sempre grandi soddisfazioni. Michela De Paola. Brava. Buonasera. No. Bravo, era tipo una cosa del genere. Perché questa sera Michela De Paola non c'è, ma c'è Francesco Lobby Frontali. Brava. Grazie. Se vuoi la faccio io, Michela De Paola, che parla dalla parte sbagliata del microfono. Esatto. Ammacca il microfono. Esatto. È tutto quello che fa. Ma ragazzi, prima di tutto, io voglio dedicarvi una canzone. Vola fino al tetto di casa, passa dal cielo sul e torna giù picchiata, in cerca di campioni lungo la sua strada. Da zero fino allo stadio, per arrivare lontano. Dopo ce lo dici dopo, guardi, facci sentire la canzone. Che farà il giro del mondo. E di giovani fuori classe, un nome sulle spalle e un viaggio che li porterà. Io ragazzi sto per dire una cosa impopolare. Lo so che molti mi odieranno, soprattutto un 50% delle persone che ascoltano Runtime Radio, ma a me Cristina Vera mi ha rotto il cazzo, lo posso dire? Cioè scusate, Cristina da Verza. Da Verza, cioè rotto un po' i coglioni. Da cavolo Verza. Una volta vado a trovare un mio amico a Putignano. Aspetta che c'è. No, volevo c'è dire che io da dire... piccolino tifavo per Giorgia Lepore, per cui figurati. Ah. Giorgia Lepore. E chi è? È l'altra, quella che si è estinta. Era l'antagonista che... naturale che cantava la sigla di Conan, Ryu. VHS che cosa... No, c'è il VHS? Sì. Ok, VHS ha vinto sul... Betamax. Esatto. Lepore è il Betamax. Ah, ho capito il senso. Nel senso che non ha vinto la migliore. È una metafora poetica. Non ha vinto la migliore. Mentre si è consumato un dramma questa sera, dopo averci fatto gioire in una maniera quasi incontenibile, metà dell'Europa ha gioito, ha perculato anche, diciamo così, perché bisogna anche usare i termini quelli più tecnici. È facile, no? Gioire quando dall'altra parte c'è la Francia. Esatto, e quindi praticamente dopo averci fatto gioire, la Svizzera ha espulso dal campionato l'arroganza francese, quella tracotanza con la quale sono scesi in campo, diciamo, noi qua facciamo noi, famo di qua, famo di là, siamo dei campioni, sono andati a casa. Ma questa sera purtroppo lo stesso destino è toccato alla Svizzera, pur lottando fino all'ultimo, perché anche in questo caso era riuscita ad arrivare ai calci di rigore. Ai calci di rigore purtroppo si è dimostrata quella che è una squadra di pippe. Arrivare ai quarti ai rigori, tanto pippa. Dai, l'impegno ce l'hanno messo, grande soddisfazione. Ecco, ora sentire l'analisi tecnica di tutta la batteria dei calci di rigore da parte di Marco Bianchi. Allora, se tu sei d'accordo, la faremo tutti insieme, così è più bravo, è così, bravo, è più chiaro, okay. Bravo, esatto. Corale, corale. Sì, corale. Tirato molto bene, però secondo era, esatto, si vedeva in faccia che era un po'. Però il terzo aveva la cicatrice, aveva la cicatrice, sì, però era molto bene. Però l'hanno sorteggiato perché di solito sbaglia. Di solito con le, e poi comunque 2, 3, poi 5, un portiere comunque è stato bravo. È stato bravo, bravo. Voleva volare. Esatto. Sì, sì, sì. Bene, bene. Bene, mi fa veramente molto piacere questa analisi che concordo assolutamente. Ma anch'io, perché poi in realtà tu pensi che ci sia una sostanziale differenza tra questo commento e i commenti che fanno, che ne so, i giornalisti della Rai, ad esempio? Assolutamente no, no, però potremmo fare questo pensiero insieme. Per esempio, io non penso assolutamente, ma guarda, io se devo dire la verità, a un certo punto ci siamo ritrovati in questa situazione un po' strana dove c'era Cristina D'Avena che cantava anche in quell'occasione, sì, ma poi per quale motivo? Infatti, a posto, quindi insomma, alla fine, giusto, Sbano? Assolutamente no. Allora, ragazzi, io sono turbato perché non lo volevo dire. Cosa ti turba? Cosa ti turba? Raga, io prima di venire qui in studio, cioè di varcare la soglia, ho assistito ad uno stupro. Cioè? Ma che brutte cose che dici, cioè? Sì, ovviamente sei stato lì a guardare fino alla fine? No, sì, se purtroppo non l'ha commesso lui. Vai. No, ho solo assistito. Purtroppo, dici purtroppo lo stupro lo ha chi? Qui il mio sodale Gualdi ha stuprato un arancino al ragù. No, perché non te lo sei mangiato? No, ho mangiato l'arancino senza ragù. No, vabbè, ma non capisci in cazzo. Però guarda, sta lì, ragù, se vuoi dopo hai mangiato. No, dopo me lo mangio, infatti, oppure lo do al cane. Infilimo sul cadavere, dai. Cioè, perché non si butta via niente come porco. La convenzione di Ginevra dei principi. Oh, ma te l'aveva anche detto che prendeva l'arancina con ragù. Cioè, vabbè, comunque. Bene, ragazzi, allora, siamo quasi emozionati perché sta per iniziare questo quarto di finale. Sappiamo che se dovessimo passare il turno incontreremo la Francia. No, la Spagna, scusate. E che la Spagna è stanca, perché insomma, alla fine, quindi un po' come. Tra l'altro, avete visto oggi? Hanno pubblicato la foto di Berlusconi a letto. La foto pubblicata dalla sua stessa fidanzata, che poi è cancellata subito dopo perché ha fatto per sbaglio. E la cosa bella è che si sta Emilio fedizzando praticamente. Madonna, comunque che tristezza, ragazzi. Il mondo è veramente un posto triste. Io voglio vedere quella foto, che ovviamente, perché l'internet non dimentica. Sì, sì, c'è il mondo, l'internet non dimentica, come dicono. Tenda canadese, cerca. Bravo. Una canzone. Bravo, faccela sentire. Consenta, mi sveglio la mattina che sono contento, ho una tenda canadese in mezzo al letto, ho una pompetta idraulica che mi fa sentire giovane e non sono mai sazio, non sono mai sazio. Amici che ascoltate, un messaggio importante per l'Italia, viva la vulva! Che è un termine, insomma, che abbiamo appreso recentemente, tutto sommato. Che perché in inglese vul, lana, e va. Va, cioè, va. Vulva. Lana che va. Se la va. Fammi vedere la foto, Pizzi, che io ho il cellulare nel gruppo. C'ho il cellulare in carica. Della vulva, la foto della vulva? No, magari la foto. Mamma mia. Ma che brutta foto, comunque. Non è quella che metteranno sulla sua tomba. Speriamo, tutto sommato, no. Ma possiamo parlare di altro. Invece, volevo sentire da Mauro cosa pensa lui della mia esternazione di poc'anzi relativamente a Cristina D'Avena. Perché, per esempio, le canzoni dei cartoni animati, quando ero piccolo io, che sono un vecchio, naturalmente, si sa che sono un vecchio. Cioè, c'era tutto rock progressive, insomma, c'era tutta gente ignorante che faceva belle, belle canzoni, bei giri de basso. C'erano quei bei riff di basso. Invece, esatto, e invece, sì. Mo' Cristina D'Avena sono tutto uguali, poi le canzoni, insomma. Ma è un artista, e punta tantissimo anche sull'estetica. Non so se avete visto ultimamente, perché i bambini sono diventati grandi, adesso si possono. Adesso tira fuori le tette. Sì, lo fa. Però. Lo so, ma quello secondo me più invecchiano e più. Cioè, più escono le tette. No, è che. Allora, ragazzi, il rapporto di noi esseri viventi con il tempo è una cosa complicata. Però posso dire una cosa. E con le tette ancora peggio. Non che sia mai stata, come dire, esattamente un ideale erotico, però è cioè più carina adesso di quando aveva. Beh, succede, succede. Queste cose ogni tanto succedono, più si mimetizzano. Poi non so quanto è Photoshop, eccetera. Ma c'è però... anche quel detto: nella botte piccola ci sta il vino buono. Bravo, bravo. Bravo. Cinque di donna. Ce n'è di meno, e io sono il primo, però. Va bene, ragazzi, questa puntata ricca di contributi e soprattutto di collegamenti che avremo, insomma, modo di adoro i collegamenti. Esatto, insomma, avremo modo di fare i collegamenti. Quindi fra un po' ci saranno i collegamenti. Però prima di questo, insomma, ricordiamoci sempre che siamo ancora no. Fra un po' arrivano dei collegamenti. E ovviamente ricordiamoci che stiamo sempre parlando di un evento sportivo, in questo caso nello specifico Italia contro Belgio, è anche detto Belgio contro Italia. Politico, oramai questi sono gli europei più politici, della storia degli europei, degli ultimi politici europei. Vabbè, non so che c'entra questa cosa, però te la lascio dire. Però perché... torna questa cosa dell'inginocchiamento. Dopo ci arriviamo. Switch in caso. Ho l'anteprima, me l'hanno detto, mi hanno telefonato. Qua ci sono i ceci, quindi ci inginocchiamo. Ci inginocchiamo, esatto. E ho sentito invece per vie traverse che per fare una burletta i giocatori belgi hanno assunto delle piccole quantità di Viagra per andare tutti quanti, diciamo, con una certa propensione all'erezione, in modo da metterli in imbarazzo, perché voglio vedere se copiano anche questo. Ah, dici, guarda un po', guarda noi, un po'. Sì. Poi, però... un occhio a cazzo dritto, vediamo se lo fate anche voi. Potrebbe essere scomodo giocare. Sì, esatto, secondo me non deve essere neanche salutare. Poi no, non lo so, vediamo. Balotas è un problema. No, al massimo ci saluti con la terza gamba. Esatto. Ma godiamoci l'inno del Belgique. Cioè, suppongo che sia l'inno del Belgique. Il Belgi non era la sigla dei Fuffi, no. L'originale belga, no. La Barabanson. La Barabanson. Sì, sentito la Brabaconne. La Brabanson. Brabanson. Che significa rispettali nei nazionali dell'arte, scusa. Io la rispetto, anche se significa bagascione, non è colpa mia, insomma. Ah, la bagascione. Il rispetto, insomma, rispetto prima di tutto per le entità nazionali altrui. Vabbè, dai, comunque hai distrutto e rovinato questo inno nazionale. Spero che non distruggerai purtroppo il nostro. Il mio intervento era più bello dell'inno stesso, per cui perché è brutto. A me, ragazzi, Insigne accanto a Bonucci mi fa tenerezza, Chi, Bonucci o Insigne? Insigne, perché lui, mi incarno io nel personaggio, mi immedesimo e mi viene una tristezza. Vabbè, comunque stanno cantando l'inno nazionale, quindi... Perché ho avuto la sensazione che cantasse Francesco? Non so perché, c'è questa cosa sotto. Grande versione che persino Bocelli vorrebbe ricantare, ma non conoscendo le parole ha difficoltà perché nessuno gliele dice. No, non facciamo battute becere sui poveri non vedenti. No. Non le facciamo mai. O ipovedenti. Però su Gistro non ce le facciamo. Sui Gistro, se quelle sono stronzo, rimane comunque. Ok, comunque ho visto Lukaku veramente molto. Allora, la formazione di stronzi, hai visto Lukaku, infatti. Esatto, la formazione del Belgio, Walter Sbano, tu che sei esperto istrutto. I belgi come sono? Champignon. Champignon. Jean Coyon. Jean Coyon in difesa. Champignon. Quello è fratello. Culaton? No. No. No. No. Quello non c'è. Quello non c'è. LGBTQ. Megoyon. Megoyon. Che è oriundo. È oriundo. Esatto. Anche un po' parente, volendo. Esatto. Jambon. No, basta, no, gli altri non sono preparati. Va bene, ok. Invece Gualdi, la formazione dell'Italia. No, io ero preparato sull'Italia. Tu sei preparato sull'Italia, Francesco, vai, vai Francesco. Sì, ok, ok, la formazione è... Allora, Cavour, Ricasoli, Rattazzi, Farini, Minghetti, La Marmora, Ricasoli, Rattazzi, Menabrea, Lanza, Minghetti, De Predis, Cairoli, De Predis, Cairoli, De Predis, Crispi, Rudini, Giolitti, Crispi, Rudini, Bellù, Saracco, Zanardelli, Giolitti, sono troppi. Abbiamo la panchina lunga, Pizzi. Sassi, Giolitti, Salandra, Boselli, Orlando, Nitti, Giolitti, Bonomi, Pacta. Se sfumo lui, sfumo tutti. Mussolini, vabbè. Badoglio, Bonomi, Parri e sono finiti. Invece i presidenti, cioè voglio dire, i citti sono vari Vittorio Emanuele a caso, così. Io ho capito che in mezzo c'era uno della bandiera magliana, poi il resto non lo so. Probabile. Bene, bene, bene. Allora, ragazzi, stiamo per iniziare questa partita. Sentiamo le previsioni delle stupide creature. Cosa ne pensate, ragazzi? Cosa succederà questa sera? Le previsioni di questa sera sono tempo sereno sopra lo stadio, con poco vento e soprattutto con dei tifosi nudi. Nudi, tutti nudi, tutti nudi, che mostrano i petti villosi, che mostrano i petti villosi, di uomini benestanti, tutti che hanno la piscina in pancia con questi petti villosi. I petti villosi. Temperatura media, umidità 80%. Bene, bene, bravissimi. In effetti era proprio il tipo di previsione. Perché scritto Bayern, hanno sbagliato a scrivere. Perché stanno a. Tra l'altro, stanno a Monaco. E quindi scrivi Bayern. Eh beh, lo stadio è del Bayern, quindi. Ho capito, scrivi. Che poi in realtà cioè, altra cosa. È lo sponsor anche. Bayern. Bayern o Bayern? Bayern. Bayern. Esatto. C'è meno senso. Simone, scusa se ti interrompo, ho appena ricevuto la notizia da un mio amico che vive in Giappone e che sostiene che per far guardare il campionato europeo di calcio ai bambini della compagine belga proponevano un nuovo cartone animato che si intitola Olli e Belgi. Mamma mia, questa pare, va. Pare che sia una... Sì, si pare che sia, sia vero. Ok, ok, vabbè, ma tanto dopo abbiamo anche ragazzi. Questo abbiamo visto che si sono inginocchiati, esatto, tutti. Tre, esatto, rapide segnalazioni. Uno, la partita è iniziata. Due, come delle perfette banconote da 7.000 lire, gli italiani si sono tutti inginocchiati. E tre, salutiamo in chat Carla che è appena rientrata nel gruppo, che ci ha appena chiesto le tette e l'inno. Non capisco bene il riferimento Carla, alle tette, però. Benvenuta. Oh. Senti, puoi farlo dopo il benvenuto perché ho un collegamento importante. Scusa, siamo collegati con la Francia. Abbiamo, per anche insomma, per continuare a discutere di quello di cui parlavamo prima. Che è successo una brutta cosa. Esatto, la signora Rabiot. Buonasera. Buonasera, signora. Bonsoir, bonsoir. Ma che bella voce, signora. urla tutte le dì, tutte le giorno. La signora Rabbi, oh, secondo me è la signora Madonna con le palle, proprio di quelle, a modino. Però no, dico, forse perché si è arrabbiata talmente tanto che c'è un po' di raffreddore. C'è avuto un calo di voce, giusto? Je ne sente una Madonna with this coso. Non sente niente? Non ci sente? Vabbè. Pronto? Ma dove l'ha messo, signora? Dove l'ha messo esattamente il coso? Ecco, man. Tanto non va un cazzo. Allora, dietro la spagnola. No, no, volevamo sapere, cioè noi sapevamo che lei si è un po' presa, diciamo, con neanche con i personaggi diretti, ma con la famiglia. Anna Madonna, aspetta, ti attacca il computer. Ah, okay. Se vuole la richiamo, Se vuole la richiamo. Forse è meglio. Che non vale che si agitasse anche con noi, vado. che magari se la prende pure con noi. E intanto qui già botte durante la partita. E vabbè, aspettiamo insomma segnali dalla signora Rabiot. E prego, Mauro. Rabiot, insomma, già dice. Sì, bello, dice già. Se la signora Sarrabiot. Nomen. Prego, prego, no, Mauro, continua il tuo. Era finita la canzone, era semplicemente un benvenuto alla nostra nuova amica o vecchia amica, dipende dall'età. Vabbè, noi comunque stiamo continuando a vedere questa bellissima partita in cui non, per adesso non succede nulla. Siamo, siamo a due contenti, minuti, Marco, due minuti. La Svizzera la vediamo. Ma ti vedo proprio in forma, Marco. Proprio, la Svizzera io ormai la vedo sul pezzo, la vedo dappertutto. La Svizzera sta attaccando l'Italia facendo finta di essere il Belgio, certo, è chiaro. Per rendere tutto più complicato. Ma potremmo guadagnarne se fosse la Svizzera vestita da Belgio, Non lo so, attenzione. O il Belgio vestito da Svizzera anche. Che una bella lotta, te voglio dire, non so. Bene. Con la signora Rabiot. Ah, ecco, allora. Ci siamo, signora? Abbiamo ristabilito il collegamento. Pronto, signora Rabiot? No. Ma tanto lo dà sempre. 7, 5, 4, 3. D'altra parte dovete capire che insomma le telefonate internazionali non è così semplice, dobbiamo instaurare la connessione satellitare. Il satellite, è sempre colpa del satellite. Sempre colpa del satellite, esatto, come negli anni 80. Sempre. E il satellite ci sta dicendo in questo momento che la signora Rabiot sta imprecando contro il satellite, appunto. Cioè, perché poveretto, insomma, diciamo che non è una settimana facile, alla fine purtroppo alcune cose. Vabbè, insomma, ragazzi, ma è un trauma, eh. È un trauma, sì. Insomma, cioè essere cacciati dai magna cioccolata, insomma, non capito, è proprio. Il massimo, cioè ti svegli, c'ho più di mo, c'ho più di mo. E poi con sta scusa che gli svizzeri parlano, sono tre cantoni, quindi parlano francese, tedesco, italiano, quelli che cacciano. C'è anche il ladino, il romancio. Intanto salutiamo pure Girasole, giustamente. Ciao Girasole, scusa, non avevo visto la chat, perdonami. Come al solito, chi te lo fa fare? Saluti Girasole. Dice Carla, per esempio, in chat, però non vale che i belgi si chiamino Diavoli Rossi. Voglio un nome fantasmagorico anche per noi. E le merde azzurre va bene? No, gli impalati azzurri. Vabbè, perché tutto questo odio per l'Italia. Alla no, fine no, per l'Italia no, però c'hanno problemi, c'è un certo risentimento. C'hanno problemi, diciamo. a piegarsi, insomma. Cioè, certo. Servizio di spiegare. Niente, ragazzi. Niente, la signora Rabiot, adesso ci organizziamo. Adesso ci organizziamo un attimo, vediamo se riusciamo a portarla su Skype. Comunque, i Diavoli Rossi ha ragione, perché in effetti anche i spagnoli si chiamano i Diavoli Rossi. E anche il Cile si chiamano i Diavoli Rossi. Sei sicuro? Sì, esatto. Quindi è un po' inflazionata sta cosa dei Diavoli Rossi. In realtà, secondo io, che i belgi si chiamano i Diavoli Rossi, storicamente non l'ho mai sentita sta cosa, però diciamo che ultimamente sono un po' più diavolati, più belgi che gli altri vabbè. Più belgi del resto, il Belgio è per ranking FIFA, ne parlavamo prima con Simone, è l'ultima squadra. Intanto, per guadagnare tempo, possiamo ascoltare un primo collegamento che abbiamo un attimo, perché qui mi reclamano chiaramente. Ascoltiamo un primo collegamento che lo riprendiamo, diciamo, che era insomma il proseguio di alcune interviste che stavamo facendo la settimana scorsa, relativa ovviamente al calcio amatoriale, giusto Marco Bianchi? Sì, giustissimo. Noi, come sai, siamo sempre attenti a tutte le forme di sport che circondano la nostra bellissima nazione, quindi anche quelle acquatiche, però in questo caso ci siamo concentrati proprio sul calcio amatoriale per cercare di dare un segnale chiaro anche in questo contesto professionale ed europeo. Cari amici, bentornati al nostro consueto appuntamento con il calcio amatoriale, la nostra trasmissione dal titolo Calcio Analisi. Questa sera analizzeremo le partite dell'Occhio Bello Poca Paglia, due squadre molto interessanti. Sì, incredibili, due squadre che si scontrano dalla provincia di Rovigo, e l'Occhio Bello, e dalla provincia di Cuneo, il Poca Paglia. Abbiamo assistito, possiamo dire, ad uno scontro ad armi pari questa volta, lo possiamo dire? Possiamo dirlo, l'Occhio Bello ha giocato di precisione, indubbiamente con una certa disinvoltura. Il Poca Paglia è riuscito a essere fendente anche in poche ma salutari occasioni in cui ha messo davvero in crisi il portiere dell'Occhio Bello. Ci sono state diverse dispute però, Mauro, ne vogliamo parlare? Cose brutte successe in campo e anche sugli spalti. dagli spettatori, abbiamo visto del giudizio verso i giocatori, del giudizio verso la terna arbitrale, del giudizio che non dovrebbe esistere. Sì, non dovrebbe esistere in virtù del fatto che ci è stato insegnato prima di tutto di non giudicare, e poi comunque soprattutto su un impianto sportivo come quello amatoriale ci si aspetterebbe comunque un grado di comprensione superiore. Pensate che addirittura tra gli allenatori sono volati insulti molto pesanti anche sulla propria forma fisica, quindi si può parlare tranquillamente di body shaming, Mauro. E vediamo affacciarsi questo reato anche in campo, anche sul campo da calcio purtroppo. Questo body shaming è il nuovo male. È il nuovo male, infatti. C'è stata però una grande lezione che l'arbitro ha dato ai giocatori e sinceramente l'ha dato anche un po' a tutti noi. Quando alla decima protesta da parte del capitano dell'Occhio Bello contro il Poca Paglia ha espresso queste parole, Mauro, possiamo dirle? Le riporterò io, non sarò certo all'altezza di questo mitico arbitro che come cammina lui sul campo bagnato non cammina nessuno. L'arbitro affermò: perché guardi la Poca Paglia nell'Occhio Bello e non vedi la traversa che hai preso? E con questa massima noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Grazie a tutti. Bene, sempre preziosi questi collegamenti. Diventa un po' complicato adesso continuare la trasmissione senza riuscire a fare i collegamenti che avevamo previsto, però insomma ma prima o poi ci riusciremo, perché abbiamo in ballo molti collegamenti, insomma. Ma collegamenti a Iosa. Io questa... collegamenti alla merda. Eccola la signora Rabiot. Bene, benvenuta. Scusi, abbia pazienza, ma non riuscivamo, c'erano dei problemi tecnici. Sai, noi siamo una piccola radio italiana, quindi grande la merda. L'italiana è la merda. Non ce la deve con noi. Scusi, Noi secondo... mica l'abbiamo eliminata. Partì che secondo me un po' c'ha ragione, però. Sì. Tu vuoi avere fatto fette avec la... Avec? No, perché noi uscite, vuoi avere fette. Ok, bello. Io non ho capito bene quello che ha detto, però signora, ci racconti che cosa è successo? A parte che pure suo figlio, insomma, non mi sembra che... Però... Insomma, però scusa, Pizzi, le mer, il mare in francese. Ah, il mare, ok. Però non si dicono. Però ecco, insomma, questa rabbia, questo rancore che lei ha dimostrato verso questi poveri ragazzi che hanno sbagliato. In fondo, insomma, non è bello, no? Può succedere. Ma la verità è che dovevo andare a farmi bombare da questi due. Mi hanno dato l'appuntamento, sono andato lì, me lo sono fatto pure il bidet, che da noi fare bidet è un gran casino. Arrivo lì e kill the best de merda, sono andato con un'altra troia. Ho capito. Se diventano quasi milanese questa cosa, non lo so, milanese, ma è francese, esatto. Cioè, Milano è una piccola Francia. Milano se tu un petit Paris, esatto. Questa cosa l'ho sentita dire tante cose. Milano tenes le mer. Sarebbe una piccola Paris. Montpellier. Stiamo Marco Bianchi, se vuole fare delle domande a questa signora francese, insomma, che si è dimostrata un po' aggressiva, diciamo. Sicuro? Ma io no, l'unica domanda che volevo fare è se conosce la grande artista Edith Piaf e cosa ne pensa. Tutto merda, quindi. Una succhia cassi del cazzo. No, non si dice queste cose, no, per cortesia, perché ci sono anche dei bambini. Ci sono gli eredi Piaf che ci ascoltano, cioè. Non è bello. Ma lei cosa pensa dell'Italia, ad esempio, degli italiani? Cioè, verrebbe, che ne so, a giocare in Italia suo figlio, per esempio? Allora, ma Rabiot non gioca in Italia? 60 milioni di persone, 60 milioni di merda. Così, ma scusi, 60 milioni di mare, effettivamente siamo circondati per due terzi dal mare. Esatto. Scusi, ma c'è qualcuno che Teron che parla? Teron della puttana, detto me. A posto, vai, questa sera ci sfugge la trasmissione di mano. Ok. Bene, comunque c'è qualcosa che apprezzo. Esatto, era la domanda che stavo facendo. Il bidet ce l'ha già detto, perché loro non ce l'hanno. Apprezzo, se la teniamo nos. Nos? La Gioconda. La Gioconda. Ok, quella le piace, la Gioconda le piace. Ma tanto il francobollo ve la potete tenere. Va bene, ok. Vabbè, la salutiamo. Poi ci passi il suo amico Alex Raccuglia, che forse è meglio. Grazie di questo collegamento, è stata veramente importante. E soprattutto ci passa sul Bethesda per sbaglio. No, scusa, no. Non ho capito una cosa. Perché Alex Racuglia sta a casa della signora Rabiot? Quanti cazzi vuoi sapere? Purtroppo, tu ricordi che la signora doveva lasciare un appuntamento con dei personaggi. Ma ho capito. Allora, due neri e si è accontentata di Alex alla fine. Quindi, ma magari non è che si è accontentata, magari sono doti nascoste. Noi non sappiamo, non vogliamo manco sapere, tutto sommato. Ma non sono nascosto, non sono nascosto. E tu perché lo sai? Perché non sono nascosto. Continuiamo a farci del male. Vabbè, infatti c'era una famosa canzone delle stupide creature che si chiamava Non sono nascoste. Esatto, infatti, mi piaceva la versione. Gol! Attenzione! Si è assediato qualcuno! Pezzo d'Italia, così è nato. No, attenzione. Non credo, perché sennò staremo sentendo. Attenzione, sentiamo delle trombette, sapete che c'è sempre questo... Noi abbiamo un paio di minuti di ritardo. Questa preveggenza spazio temporale, dice... questo sarebbe un rigore, forse. Sì, attenzione, perché Olivia ci dice in chat go! Attenzione, abbiamo segnato, noi lo vedremo fra tre minuti. Ma non siamo sicuri, potrebbe esserci una diversione temporale. Non si sarà sbagliata perché era piuttosto isolato. Ma è tipo un rigore, quindi praticamente, cioè il calcio di rigore per l'Italia o il calcio di punizione? È una punizione. Chissà chi la tira, vediamo metri, se... quindi farà. Attenzione, la tira Insigne, attenzione, Insigne sta per segnare. E che Insigne? No. Attenzione, tiro. No, che gol! Bravo! Ma allora E questo gollonzo di Bonucci, ragazzi. Bello, bello. Prego, che dice, non so più con chi sto parlando, a dir vero, però. Bonucci ha fatto il gol. Bonucci, di non... sentito un... Io mi sa che... Però fra un attimo stacco, perché il mio cane si è innamorato di una cagnolina che c'è in giro. Continua a dirmi, portami a fare la cacca, anche se non mi scappa, così la vedo. Ok, bene. Quando... poi c'ha ragione, tutto sommato. Vai, quando vuole rientri, caro Alex Racuglia. Grazie della sua partecipazione e ci saluti la signora Rabiot. Ragazzi, comunque abbiamo il cazziatone dalla chat. Perché è pazza, è psicopatica. Lo so, me lo immagino, Ma in giro con un manico di scopo a picchiare la gente. Cioè, ma no... Sono belle cose. Fish nel kill, te lo fish nel kill. Vabbè. Raga, a dopo, ragazzi, ciao. Scusate, no, gol irregolare fuori gioco. Lo sto leggendo adesso. È già il secondo che gli hanno annullato. Praticamente. No, prima era contro. Dovesse allontanare il cellulare perché. Ok, vabbè. Non... Grazie. State tranquilli. Ma perché ci cazziavano dalla chat? Perché non li. Non li stiamo cagando. Esatto, hai ragione. E tu dai, dai sfogo. Cagali. Dai sfogo. Il problema è che se leggiamo la chat, veniamo a sapere le cose tre minuti prima che succeda. Vabbè, ma che ci frega. Ma sto scherzando, ho capito, ci mancherebbe altro. Comunque le stupide creature in realtà ci dovevano cantare quella canzone di cui ho già dimenticato il nome, che però è non è nascosto. Non è nascosto, no, non sono nascoste. Si vede perché non è nascosto. E sotto c'è il colonnello Campbell. Gli occhi di tutti. Colonnello bacia Palindel. Yeah. È il naso. È il naso. Si vede perché non è nascosto. Sta sotto gli occhi di tutti. È naso. Potete collegarvi col vostro colonnello del cuore. Il pezzo rimarrà in stand by per sempre. 48 ore. Stand by. Bella, veramente bello. È un pezzo che faremo ascoltare tutti. Ha suscitato, esatto, insomma, in noi delle emozioni. Insomma, vabbè, questo gol è stato annullato, quindi. Sì, per fuorigioco. Ok, quindi c'è un complotto dietro. C'è un complotto rispetto a questa. Perché si sono ginocchiati con un lieve ritardo, per cui io mi auguro che abbia spezzato il morale dei belgi, che quindi adesso siano più spaventati, dice. Esatto, adesso avranno un tracollo emotivo. Oppure si incazzano, una cosa sono due. O l'una o l'altra, certo. Oppure si incazzano, va bene. Spero che non gli abbiano detti francesi di merda, perché si incazzano due volte. Poi, no, attenzione, che il Belgico in questo momento è in attacco. Beh, anch'io se mi dessero del francese mi incazzerei, soprattutto ma i belgi soprattutto. Perché... Bene. Allora, ragazzi, io faccio. Ci ascoltiamo un bel brano delle stupide creature. Per prendere un attimo tempo e anche organizzare i prossimi collegamenti, perché insomma, come ho detto, ci sono dei collegamenti importanti anche dal punto di vista internazionale. Quindi quindi uno già l'abbiamo fatto e poi vediamo. Insomma, Marco, la vuoi presentare tu il brano? Il brano si intitola Scuola 3.0 ed è una visione futuristica al passato dell'educazione scolastica. Sveglia la mattina presto, giù dal letto, poi mi vesto. Devo fare svelto, svelto. Lo stomaco è chiusura il lunedì mattina. La colazione non va giù. Un pensiero mi sconvolge. Devo prendere l'autobus. Lo stress mi fa venire i brufoli. Tutti pieni di... Ecco i bulli che schiamazzano, se mi prendono mi ammazzano. I compiti non glieli ho fatti, mi rincorro come matti. Finalmente sono in classe, forse salvo ma la propria assente. Oh no, è sicuro, presto qui mi salta qualche dente. Per fortuna c'è il bidello che mette fine a sto bordello. Per ora sono salvo, presente. Baldovino, presente. Giscardo, presente. Filippo Nosei. Silenzio! De Maria. Presente. In generale, non dobbiamo dare spazio alle giovani menti di sviluppare un pensiero proprio. Lo spazio dedicato alle arti visive, alle arti creative nella scuola italiana è fortemente ghettizzato, non ha spazi, è fortemente compromesso e così va bene. Sono cartelli, introzzi e sti cazzi. Ancora in vacanza, prof. Come farò senza le mie treccine di Lavaredo? Voi siete tutti dei somari. Prima ora di latino lo imparo. Alle elementari tutti a colori, pianiamo un poco alle superiori. Meno male siamo stati lisi, per laurearsi occorre essere grigi. Questo mondo colorato, siamo contenti, ci hanno omologato. Con la scuola non ci siamo mai persi, pensa che sfiga essere. diverso e per sua natura è diverso. E fin qui nessuno può dire niente. Se il diverso si equipara a un non diverso, il diverso, se nel suo progredire può essere equiparato come non diverso o meno diverso, può accedere, può avere una vita che si avvicina di più a quello che può essere considerata normale. Ma fondamentalmente rimane diverso. Mi sembra, insomma, un concetto teorico abbastanza interessante. Maratona di Donnarumma, attenzione. E facciamo un applauso alle stupide creature, bravo. Tra l'altro c'è il tripudio in chat per le stupide creature, quindi è giusto riportarglielo, esatto. Quindi è veramente un'ovazione. Allora, come tutte le volte, noi, insomma, sapete che abbiamo questo importante concorso dove alla fine noi proviamo a far vincere un cavolo verza alle persone. Insomma, quindi vediamo un attimo se ci riusciamo a far vincere questo... Cavolo Verza. Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Ciao, ciao, qui è Grand Time Radio. Ah, ciao, ciao, come stai? Ciao, bene, tu come stai? Hai vinto un cavolo verza. Bene, bene. My Italian is very limited, so please yeah, what can I do for you? Ma io non ti capisco, che stai dicendo? Scusa, hai vinto you won a cabbage. Hai vinto un cavolo verza, sei contento? He said he's really proud to be the winner of this prize. It's a cabbage. Sei contento di aver vinto un cavolo verza? Ma Noi non ti capiamo, non capiamo quello che dici, quindi o oggi parli in italiano oppure non puoi vincere il cavolo verza, va bene? If you speak Italian you can win the cabbage, otherwise you can't. I'm raising one eyebrow at the moment because I'm in the middle of a barbecue at a friend's house and I'm kind of, you know, wondering what this is all about, and it's a great accent, it's beautiful, I don't speak much German, but you know, hey, what can you do? Quindi praticamente ci stai di che ti stiamo disturbando. Esatto, stai mezzo al barbecue. Stiamo disturbando. Va bene, ciao John, grazie di tutto. Ciao, niente cavolo verza, niente. I can feel like guys, I get sorry, man. I normally cut people off at this time, but I've had a couple of beautiful homemade mojitos by an Italian friend of mine. Ci stai insultando. And you're cutting across me, thanks. Lei ci sta insultando, quindi arrivederci. Addio. Okay, lads, just come fucking calm down. Che stai dicendo? I can feel my blood pressure rising. I'm a ginger fucking Irish man, lads. I give you a little bit of advice there now. Calm it down, or I'll have to cut your fucking right off. And there'll be a call going in now to the Director General now. And if a friend of mine is in the park, Io sentivo anche una bestemmia alla fine. Ah, in the middle of a barbecue, Olivia è morta. Io ve lo dico. No, ma lì uccidevano soltanto animali vegetali. Tranquilla, non erano veri. Gli animali vegetali, va bene, niente. Comunque, scusate, questo concorso ritengo sia un po' violento perché entra nelle vite private delle persone. Esatto, che stanno a fare il barbecue. Chiede Alexa Puglia, ma chi è questo? Vengono disturbati mentre fanno la barba al culo. Esatto, il barbaculo è terribile. Il barbaculo è bellissimo, bravo. Hai tutta quanta la mia approvazione. La barba al culo è il preludio allo sbiancamento, ma, giusto? Guardate Lukaku, esatto. Attenzione. Beh, bel tiro. Oh, Donnarumma si è ricordato adesso un portiere. Bene. Insomma. Con tutti i soldi che gli danno. Sente il rumore di cash ogni volta che praticamente para una palla. Infatti la palla, quando lui la tocca, non fa spink, come fa di solito, fa sblink. Fa sdedeng, nel senso che conta, certo. Mi sembra che ci sono dei brani musicali proprio adeguatamente specificatamente progettati sul suono onomatopetico dello sbing. Sbling. Oh yeah, yeah. Lukaku appena calciato, Lukaku ha sbagliato, è sbiancato. vinto dei dei premi con i suoi piedi. Suo famoso piede sinistro ha vinto un bel premio, la scarpetta di bronzo. È famoso per la sua agilità e prestanza atletica. Usa il piede sinistro come fosse il destro. Delle volte si confonde e inciampa. Progressioni di Lukaku. Tutto, tutto sudato. Avanza come un trattore. Tira e fa quasi gol. Poi si deprime e suda. Lukaku sudato. Lukaku è bagnato. Lukaku è inciampato. Ma non è Lukaku. Non è Lukaku, no, è Lukaku. È Lukaku. Lukaku. Scusate, ma questi nomi sono simili, non li distingo. Non li distingo. Scusate, stupidi creatori, mi confermate che questo brano si chiama Stitico? No, Stitico era quella la settimana scorsa. Ah, pardon, infatti, pardon. Infatti. Scusa, somiglia perché ha delle sfumature. Delle sonorità similari, sì, okay, deve essere quel Lukaku Lukaku che trae in inganno. Ma sì, perché loro sono un po' come Ligabue. Ma è dell'album. Fanno un disco con una sola canzone. Ma perché no? Perché sono sonorità simili dell'album Supreme Deiezioni, era, mi ricordo. Ok, è vero. Sempre quando ancora Bianchi faceva il solista. Esatto. Esatto. Lui faceva questo gruppo solista che era fantastico. Però c'era il primo batterista, ma anche il secondo chitarrista, volendo. Bene. No, è stato un gruppo in cui sono riusciti a coesistere 16 batteristi e noi li cambiavamo solo a backline, solo backline. No, proprio sul palco. Avete dato un nuovo senso alla parola turnista con quella. Esatto. Comunque io mi rendo conto che ci siamo dimenticati dell'animale questa sera. È vero, Francesco, l'animale stavolta spiega. Oh, Francesco l'animale, adesso non esageriamo. Infatti sì. Anche se forse potrei... Comunque sì, l'animale di questa settimana. Stavolta siamo andati relativamente sul semplice e abbiamo trovato foca loca cinese. Foca loca. Foca cinese che si chiama foca. Foca loca. Viva la foca, che Dio la benedica. Foca è il nome e loca sarebbe la loca. Cinese è l'aggettivo? No. Okay. No, è perché è cinese. Adesso cinese. Guardi, va a vedere in cinese come si dice oca. Oga. Oga è un'altra cosa. Okay, come ecco. È come Lukaku. Esatto. Che significa oca in cinese? Ah, ok. Va bene, quindi... E quindi diciamo che Stock è stata talmente precisa e brava che stavolta lei la previsione l'ha fatta prima attenzione della partita. Che forse chat, diteci, secondo me ha segnato l'Italia. Chat, diteci perché qui c'è stato un'onda. Un boato. Esatto. Stato un boato. Anche è bello qui. Fare le dirette così, cioè che noi già arriviamo in audio 2 minuti dopo. Attenzione perché Olivia ci conferma go. Ok. Un sospetto ce l'avevamo. C'era un po' il dubbio. Adesso sentiamo la telecronaca delle stupide creature del gol che sta per aprire. È appena inciampato il numero 2 rovinosamente, ma molto rovinosamente. Non è inciampato, cadere dalla bicicletta, talmente esatto, l'hanno male. Abbattuto. Comunque, prego. Specie protetta, l'italiano è una specie protetta e bisogna stare attenti quando si fanno falli del genere. Però. E c'è il gol. C'è il fallo di Lukaku. Adesso c'è grande mischia in area di rigore, gli azzurri si passano la palla, quasi inciampa, tira ed è golle. Chi ha segnato? Era di spalle, non ho visto. Veloce. Allora ce lo dice Sbano, gli ha segnato. Scusa, pure tu, coso, no? Cioè, Smanello. No, ha segnato Barella, ve lo Barella, dico. Barella. Ragazzi, capite che insomma. Che è quello dell'altra volta, quello che è nato ad Ospedaletto, giusto? Esatto, è nato ad Ospedaletto. No, ha esordito nel giovanile ad Ospedaletto. Vabbè, mi ricordavo l'informazione, ma non l'avevo. A differenza di Chiesa, che è nato nel calciatore svizzero là, che è Ictus, come si chiamava là? Embolo. Embolo Ictus. Quelli sono i nomi, in Svizzera quei nomi ci sono. Sì, Embolo sì, e Cutus, chi è che ha fatto il fallo? È stato Barella che ha fatto il fallo a Embolo o viceversa? Mi ricordo che davvero è successa una cosa del genere. Sti cazzi. Esatto. Siamo ritornati all'animale, sicuri? Sì, teniamo all'animale. Ci interessa sapere come funziona questa settimana l'animale. Anche se io funziona non che so bene ha già fatto la previsione, praticamente doveva beccare, c'erano due sul muro, avevo disegnato l'Italia, bandiera dell'Italia da una parte, la bandiera della Svizzera da un'altra, e lui praticamente beccava, ha fatto tante beccate, quanti gol da una parte all'altra. E io me li sono segnati su un foglietto quanti ne hai fatto, perché comunque era abbastanza veloce, quindi sono dovuto stare attento, me li sono segnati. Ok, quindi? Però quindi non c'è l'animale, non ce l'abbiamo oggi. No, c'è l'animale. C'è l'animale. Ma non lo sento, non fa suoni. Sì, è successo che praticamente mentre mi ero distratto, forse non ero dimenticato dalla mangiare, poi si sa che che spizzicano dappertutto, mangiano qualsiasi cosa. E niente, a un certo punto non ho trovato più il foglietto, se l'ha mangiato l'oca. Per evitare che venisse digerito, visto che la previsione la faceva solo una volta, e niente, l'ho dovuta abbattere, diciamo così. Ma come l'hai abbattuta? Sì, per cercare di recuperare prima che venisse digerito il foglietto dal. Ma così vale? Ci sono che cosa dice il regolamento, Walter, su questa cosa? Cioè, si può ammazzare un animale prima che sbagli? In realtà noi abbiamo fatto una convenzione con la LIPU, con la Lega Protezione Animali. Con la liposuzione. Con la liposuzione. E che non avremmo maltrattato nessun animale durante la realizzazione di questo programma. Quindi ho toccato un ginocchio di Gualdi, pensavo che deve essere una cosa accidentale, rigorosamente. Non possiamo. Sì, ma mamma è morta in modo accidentale. Mi ci sono seduto sul collo in modo accidentale. No, cosa fai? Scusate. Solo che in un certo qual modo devo recuperare sto cavolo di. Quindi è già morto. Cioè, io non ho capito, è morto sto animale. Sì, no, è ancora in coma. È in coma. Ok, no, sì. No, è morto. L'unica diciamo che il suo modo di fare un pochino la ruspico, nel senso cercherò di capire, a parte che non sono formato, non sono aggiornato per quanto riguarda l'anatomia delle oche, quindi dovrò andare un po' a braccio letteralmente a trovare questo pezzo di stomaco, quindi la devi aprire a presto, la sta a far ripiena praticamente, fare un taglietto. Aspetta, ecco qua, inizia a mettere adesso, cerchiamo addocazzo. No, ma sembra eccessivo. Ma che stai? Che schifo, scusa. Ma che schifo, ma che sta succedendo? Addio, il braccio fino all'ascella infilato. Intestini. Sono intestini, lunghi. Quanto sono lunghi gli intestini? Mamma mia, è così la forma. Conferma lo stomaco, serve un coltello un po' resistente. Raga, scusate, a furia di metri, secondo me lui continua a dire che questa è un'oca. Ma quanto è grossa sto? No, secondo me è l'ex coinquilino questo. No, mamma mia, ma che schifo, basta. Basta. Lo schifo tirato fuori, eccolo sto il fogliettino, l'ho visto un po' un attimo. È finito. Ok. No, ma sì, però. No, non era il fogliettino giusto. Ma che cosa? Devo ritornare. Scatto l'orologio, mi sono perso l'orologio. Aspetta. Vabbè, lo ricordo. Vabbè, ok. Quindi? E cavolo, qua andiamo per le lunghe 11 a 10. 10. Esagerato. Per il Belgio, ok. Vabbè. Comunque penso fosse un elefante. Non poteva essere. Ma anche un cristiano poteva benissimo essere. Ti ho detto, in quel caso è l'ex coinquilino. Sentiamo le stupide creature che stavano emettendo dei suoni. Oca, oca giuliva, oca amica di mille avventure. Le cremo i baffi mangiando il tuo fegato prelibato. Tanto il risultato lo avevi già sbagliato. Festeggeremo col tuo fegato e con una buon calice di vino questa, non lo dico per scaramanzia. Bravissimi, veramente bravissimi. Anche se in realtà non possiamo dire che ha sbagliato, cioè magari adesso il Belgio segna 11 gol, non possiamo sapere. Ragazzi, potrebbe essere il risultato dopo i rigori, Anche sì. Cioè io ho dato quell'interpretazione. Ok, tanto noi stiamo provando a fare un collegamento. I rigori, secondo me i rigori. I rigori per forza, un risultato del genere per forza. Palla arrivava fino a mezzanotte, ma cago, dopo cazzo. Allora, a noi intanto abbiamo un collegamento giustamente dal Belgio per vedere un attimo com'è la situazione, com'è il clima. Roberto Tomaiuolo. Ma chi sei, scusa? Beh, io sono Simone Pizzi, Runtime Radio, mi dovresti conoscere, cioè, avevamo... Già, come faccio a sapere che sei tu? Qual è la parola d'ordine? Parola d'ordine... Cavolo Verza. Cavolo Verza. Pensavo se sì. Va bene. Non sei il compenso è confermato, ce l'ho io la parola d'ordine. Felice non è felice. Esatto, bravo. Vedi, c'aveva la parola d'ordine. Guarda, il compenso è talmente confermato che quando però quindi forse è confermato, non c'è problema, insomma. Bene. Allora, la situazione qui in Belgio è molto tranquilla, partita noiosa, siamo ancora sullo 0-0, Vince l'Italia, sta vincendo l'Italia. Come vince l'Italia? Vince l'Italia. Forse è il fuso orario, allora, qui ancora non siamo arrivati. Ancora non lo sanno, guardando la versione. Ancora non lo sanno, ma presaglie. Quindi sono dei loop spazio-temporali, dici? Cioè, questo è un po'... Quindi il tempo è il fuso orario, qui ancora non è arrivato, ma adesso noi... Adesso non glielo voglio dire perché li vedo tutti ancora contenti, però giustamente è una bella atmosfera. Non diciamoglielo, no, perché rovinargli giusto, fino a che non lo sanno, c'ha ragione. Ma vabbè, comunque, anzi, qui essendo un'ora di fuso orario, nella partita in realtà non è ancora nemmeno cominciata. Ok, per quello sono contenti. Si beve birra, quindi vabbè, si beve birra, quindi si canta in fiammingo. Io non so cosa stanno cantando, però non lo sai. Non te lo so dire. Come interagisci con loro? Scusa, faccio dei gesti, però di solito mi guardano in modo strano, quindi non sono sicuro che gli arrivi esattamente il mio messaggio. Però pensano questi italiani che gesticolano sempre, giustamente. Già, ragione, perché d'altronde va bene. Noi allora dobbiamo sentirci più tardi, molto più tardi. Dobbiamo sentire più tardi. Io vedo di recuperare una stante belga. Vediamo se riesco a recuperare una stante. Ok. Basta che poi dopo non ti picchia, insomma. Però devi pagare pure la stante, così come il sottoscritto, chiaramente. Certo, è chiaro. Mi pare ovvio. Lo stesso, però non la stessa cifra, un po' di esatto. Meno. Un po' di meno, dai. Esattamente. Ok, va bene. Grazie. A dopo. Ci sentiamo più tardi. Allora, grazie mille. Va bene, grazie. Allora, continuiamo insomma con questa bellissima trasmissione dove, insomma, vedete, noi stiamo facendo veramente tantissimi collegamenti importanti per farvi capire quanto Runtime Radio sta mettendo in gioco in questa... Quanti soldi stiamo a cacciare. Esatto, insomma, quindi capite, insomma, che se andate su runtimeradio.it e cliccate su Anche Io, potete contribuire chiaramente alla nostra campagna Patreon, oppure fare una donazione una tantum al PayPal indicato. Insomma, date una mano a Runtime Radio, che vi vuole sempre tanto bene. Chiaramente questo è un messaggio sponsorizzato da noi stessi, ma senza secondi fini. Da noi stessi poi vabbè, insomma, questo è... Ragazzi, sapete che c'è molto fermento in chat? Dai, raccontaci un po' la chat. Per dai. Esempio, una cosa divertente che ha scritto qualche minuto fa il nostro Alex Raccuglia, riferendosi allo streaming di Replay, sostanzialmente si è reso conto che a livello di contemporaneità in Rai, quello streaming è qualcosa che non vedeva ai tempi dei primi giorni di Sky Go. E a me viene subito in mente quello che potrà succedere a DAZN praticamente con l'inizio del prossimo campionato, con tutte le partite del campionato. Eppure c'è una cosa, tra l'altro ne parleremo però nella separata giusta sede, ossia OGM lunedì sera, perché ci sono delle cose interessanti, ma Sky Go era un robottone degli anni 80? Sì, proprio, trasformabile. Mi sembra che esiste la sigla di Sky Go, no? Quel robottone, quello... Sì, sì, sì, noi tra l'altro la eseguivamo come primo brano nei nostri concerti, certo, nell'82, quando avevamo circa 2 anni. e la suonavamo. Ed era una canzone di Cristina Ravena, tra l'altro. Io ne avevo 8 comunque. Sì, ma ora ne aveva 8. Originariamente, no, allora ecco, attenzione, sfatiamo un mito: è stata attribuita erroneamente a Cristina Ravena. Lei ha fatto la cover, giusto? Sì, allora la cover sicuramente. Che è una ladra, Cristina Ravena, giusto, sì. Allora, lei, sapete, con Alessandra Valeri Manera, che era quella che scriveva i testi e così, brutta, no? Gente. Praticamente lei si cantava questa canzone simulando la versione originale, ma la versione originale l'abbiamo trovata noi e onestamente abbiamo avuto anche il piacere di inciderla e ve la faremo ascoltare in questo momento. Bene, bene, siamo tutte orecchie. La storia del robottone della tua cupo, insomma. Un cuore matto, matto robottone, che guarda te, ha un cuoraccione che va a diesel, perché quel robot qua devi spostarlo là, hai capito? Che bella sigla. Devi spostarlo di là. È un diesel. Ho come la vaga impressione che l'Italia abbia segnato. Eh sì, è un diesel. Quasi, quasi gol. Quasi, quasi, quasi. Quasi. Di ferita. Passaggio. Sì. Vai, ce la può fare. Insisti, quasi, perché il gol sono sicuro che arriva. Deve arrivare forse. Insisti, insisti. Fra 8 minuti il robottone non ce la può fare, è troppo emozionato. Vedo che gli pulsa la trasformazione. È morto. Attenzione, attenzione, l'Italia, attenzione, sulla Insigne, fascia. Ragazzi, Insigne, Insigne, Insigne, la mette in mezzo. Sboggo! Gol! Posso, noi arriviamo dopo. Posso dire una cosa politically correct? Politicamente correct o scorrect? Assolutamente correct. Ok, vai, prego. Stiamo a romper culo al Belgio. Ecco. Ma ricordiamoci che potrebbe ancora segnare 11 gol. Esatto, deve ancora, infatti, esatto. Tanto era 11-10 il risultato, quindi ce n'è. Buona voglia. Lukaku non l'ha presa benissimo. No, infatti, mi sembra molto allegro. Però ricordati che tra le stupide creature c'è una ragazza belga. Quindi cerchiamo di portare sempre rispetto un pochino, insomma. C'è una ragazza bella? Bella, uh-huh, sicuramente, ma anche belga. Un po' belga. Belga. E si chiama? Si chiama... appunto di nome. Così è belga, si chiama. E Bruxelles di cognome. Bruxelles, esatto. Viaggio con i cavoletti, questa rinomata verdura belga proprio, che è nata in Belgio, non so se sapete. Che è così, no, praticamente sono famosi per i cavoletti, tutta gente che non sa fare gli affari, non si sa fare gli affari suoi perché si fa sempre i cavoletti degli altri. Belgi, popolo ricco di tradizioni, tradizioni culinarie che utilizzano ortaggi, che scaldano con legno di faggi. Perché il belga. Scusate, ma mi sa che c'è un rigore. Sì, mi sa che c'è rigore per il Belgio. Il belga originale inciampa in area di rigore. Se non sbaglio è Lukaku, signore e signori. Lukaku ha confuso il piede sinistro con il destro, ha inciampato, come dicevo. Ah no, è un altro, scusate. A parte che questo è rigore domani comunque. Non l'ha toccato, ragazzi. Cioè, questo, se vai al VAR, non VAR che noi conosciamo. Non l'ha toccato, eccolo lì, non l'ha toccato. È proprio buttato. Lo spostamento d'aria. Sì, sì, secondo me era per quella cosa del Viagra. Lo spostamento d'aria. No, ragazzi, cosa ma veramente Viagra, non è cameratismo, non l'ha toccato. No, un po' sbilanciato, ma niente di che. Mangiando i cavoletti di Bruxelles. Spostamento d'aria. Vediamo cosa decide l'arbero. Esatto, esatto. E poi dopo andiamo a un'intervista importante e interessante che hanno fatto le stupide creature, ragazzi. E l'arbitri, poi questa cosa del VAR, che l'arbitri non, nessuno vuole prendere una decisione quando è così. Ma, cioè, vuoi ma dire... l'hanno chiamato il VAR? Non mi è chiaro. No, lui sta facendo il check con quelli che stanno al VAR. Se quelli che stanno al VAR gli dicono vienla a vedere, lui lo va a vedere. Se no, però vedo che è confermato rigore, il calcio di rigore. Controllo rigore, un attimo, controllo rigore. Ok, bello, tanto, complimenti. Tanto. Beh, serve a molto il VAR. Chat, diteci, questo rigore c'è, lo tirano, non lo tirano? Perché secondo noi, controllo terminato... Sì, sì, no, è rigore che sta a portare l'arbitro, il Donnarumma direttamente in porta. Dice Olivia, sì, lo ha toccato, lo ha spinto col braccio. Ma secondo me l'ha spinto con la cosa del Viagra che aveva detto prima. Vediamo se Donnarumma vediamo questo calcio di rigore, poi ci andiamo a sentire questo importantissimo. Secondo me lo segna, nessuna bestemmia. Contributo, sì, vabbè, infatti, se no avrebbero esultato tutti quanti. Sì, Luca, quindi... è per poco però, E vabbè, ha segnato, vabbè, bravi Belgio. Quindi abbiamo 10 gol ancora da fare. Esatto, infatti. Allora, Marco Bianchi, presentaci l'intervistona, che insomma questo è un personaggio, non è che... Allora, qua ragazzi, non vi nego la difficoltà di riuscire a recuperare l'indirizzo di costui, è stata una faticata incredibile, però per Simone Pizzi e gli amici di Runtime Radio siamo riusciti a fare anche questo, siamo appena tornati, infatti siamo anche un po' stanchi perché, voglio dire, non è facile attraversare ben 3 confini nazionali per andare ad intervistare un personaggio incredibile che però vi presenterò nella registrazione che abbiamo testé effettuato. Cari amici, bentornati alle interviste delle stupide creature, anche oggi grazie al mondo del calcio e alla nazionale belga abbiamo colto l'occasione di intervistare un altro personaggio che davvero ha fatto la storia della nazione belga. Stiamo parlando del grandissimo detective Hercule Poirot ed è qui con noi in splendida forma, ha risolto una quantità di omicidi impressionante, davvero un cervello un po' fuori dal comune e davvero siamo onoratissimi di questa intervista. Innanzitutto le vorremmo chiedere come sta e come vanno le cose. Très bien. E cosa? No, ha detto, si sente bene? No, ha detto très bien e poi ha detto très bien. Ah, ok, très bien. Ok, allora non ci faccia preoccupare, mi raccomando. Cosa? No, fa così ci fa spaventare. No, scusi, va tutto bene? Sì, sì. No, perché quando fa così mi fa venire un po' di ansia. Très bien. Très bien. No, è qualcuno quello quando fa quel verso lì che mi fa. No, vabbè, comunque sembra tutto a posto, no? Ok, possiamo andare avanti. Très bien. Très bien. Va bene, grazie. Allora, io volevo così farle una domanda molto veloce perché non vorremmo abusare troppo del suo tempo, però così eravamo curiosi di sapere qual è il suo rapporto con il calcio e che cosa ne pensa. La prego di concedermi, mio caro, ancora un momento di suspense. Per carità. Beh sì, lei è abituato forse a fare un pochino di teatralità, no? nella risposta delle domande. Qua però è una domanda molto... molto semplice, le lascio un attimo di tempo, non so quanto deve durare la suspense, giusto così per sapere, perché siamo in radio, no? Allora dovremmo capire un attimo. Très bien, très bien, très bien. Ecco. È cosa? No, io non capisco. Lì si ferma, si blocca, no? Non capisco quando fa. Noi vogliamo capire questo, ma non hanno. No. Lei, ecco, no, lei ci dice appunto che ha una certa età prima nel fuori onda, però comunque voglio dire è riuscito a risolvere la questione di non andare in un ospizio e questo sicuramente le ha dato così una bella botta di energia, una bella carica, non è vero? Ho già, come promesso, risolto il mistero senza lasciare il mio appartamento. Sì, sì, ma quale mistero, scusi, non ho capito. Cioè, sì, abbiamo capito che non ha lasciato l'appartamento. Beh, comunque lei qua si trova bene, no? Très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Très bien. No, ecco qua, lui si è bloccato un'altra volta. Ancora, no, vabbè. Allora, cerchiamo di chiudere un attimo. Vogliamo fare una domanda, così. A lei piace il calcio e vogliamo capirle se... La prego di concedermi, mio caro. Ancora un momento di suspense. Ah, ancora, no, è che veramente siamo... Siccome siamo poi andrà in diretta questa cosa, allora vogliamo una risposta solo se... Chiamerò semplicemente la vostra attenzione su 3 dettagli. Sì, che messi insieme risultano determinanti. Ah, ok, per la passione del calcio. Numero 1. Sì, mi dica. Cosa c'è di rilevante nel periodo di tempo che Monsieur Devenheim ha passato durante l'inverno a Johannesburg? Devenheim è un calciatore? Perché Devenheim e sua moglie non dividevano più la camera da letto da quel momento in poi? Ma queste sono, beh, credo che... Numero 3. Che cosa c'era nell'armadietto del bagno di Monsieur Devenheim che non avrebbe dovuto esserci? Nell'armadietto degli spogliatoi, intende, però non abbiamo... Très bien, très bien, febbia. Nel senso che ancora no, si è bloccato un'altra volta. No, il signor è un po' più difficile del previsto riuscire. Io non ho capito la domanda. Va bene, allora la ringraziamo. Allora speriamo di vederci presto. Grazie a tutti per questa intervista. Linea allo studio. Grazie. La prego di concedermi, mio caro. Ancora un momento di suspense. E basta. Bravi, grandi, bravissimo, ragazzi, bravissimo. Grandissimi. Bellissima intervista. Sì, è così. Si bloccava e poi gli rimanevano gli occhi spalancati, guardava verso l'alto e sbavava. Beh, anche una certa. Qui era un embolo, era quello il giocatore della Svizzera la volta scorsa. Embolo. Va bene, insomma, è finito questo primo tempo. Bello, insomma, dove soddisfatti. Intanto è passato Godzilla praticamente. No, sta ancora qua. È okay. Dominic Toretto praticamente. Okay, sì, è arrivato uno con la macchina, sta sgasando. Vabbè, oramai qui è diventato. Boh, va bene. Francesco. Aspettate, sto dando istruzione a gente su come stendere i panni in solaio. Quindi, questa è la chiave. Ok, ma sono cose private. Ci sono. Che no, ci fanno piacere. Ci fa sapere lei se però dobbiamo fare. È radio verità. Esatto. Sì, dite. È radio neorealismo anche. Neorealista proprio. Esatto. Dopo ladri di biciclette, radi di panni in solaio. Io tanto sto ruttando, scusate, ma la birra si fa sentire un pochino, insomma. Senti, ma poi c'è... Che dici, lo facciamo il collegamento? Perché io mi consulto con te, il collegamento con il nostro dottor Pippo Campo. Non so se l'hai sentito ultimamente, perché io non ho avuto il tempo. No, pure io. C'ho i cazzi miei, lui c'ha i cazzi suoi, però non è che... Okay. Cioè, lo conoscete più voi che io alla fine, quindi... Sì, questo è inquietante. Però da chiamare, cioè. E dopo proviamo a chiamarlo, quindi più tardi, insomma, quando inizia il secondo tempo, anche perché abbiamo delle domande per lui, giusto? Sì, molte domande. Molte domande, soprattutto. Allora, abbiamo la domanda innanzitutto e Très bien. Noi dovremmo sempre, io c'è una cosa, noi dovremmo fare prima o poi il collega, cioè dovremmo richiamare, che ce lo siamo dimenticato, è il tifoso dell'Italia austriaco. Ah già, hai ragione. Allora facciamo una cosa, guarda, dato che io anche devo un attimo, insomma, bermi qualcosa per... ci sentiamo il bellissimo brano della settimana, che poi dopo le stupide creature faranno la versione italiana come hanno fatto la volta scorsa, tanto il brano è quello, insomma, non è che è cambiato, e così io mi abbevero un secondo e intanto organizziamo il collegamento con il nostro amico dell'altra sapete, settimana, insomma. Perché starà vedendo la partita, penso, adesso. Sì, penso anch'io, insomma, quindi ascoltiamoci il brano e ci vediamo fra pochissimo. Questo è un brano consigliato da Runtime Radio. Ciao a tutti, un saluto agli amici di Runtime Radio. Io mi chiamo Chiara Palaia e sono una cantautrice. Vi presento il mio primo singolo, scritto da me, dal titolo It's Gold. Potete ascoltarlo su tutti i digital store e potete seguirmi sul mio canale YouTube, Chiara Palaia e Suoni in Rock. A me non resta che augurarvi buon ascolto e vi ringrazio. Ciao. Of pain now, I wish I'd never been born. questa è Chiara Palaia con It's Gold, brano della settimana che insomma ascolteremo per oggi, penso che sia l'ultimo giorno, no, domani è l'ultimo giorno, insomma. Aspetta. Oggi abbiamo ascoltato il brano della settimana scorsa. Per fortuna è l'ultima volta. Peppi c'è. Sono Chiara Palaia. Sono una cantautrice. Sono nuda sulla playa. E ho le ragazzi. Eh beh, è sempre molto rispettoso da parte di una radio che passa il brano della settimana e poi lo percula, perché insomma, però noi tutto lo l'ultimo giorno, no, in realtà non lo è fino a domenica. Però ragazzi, volevo dire una cosa, mi aggancio, approfitto perché in chat prima hanno fatto una domanda che giustamente calza a pennello, dice, ma perché le stupide creature non hanno ancora fatto il brano della settimana? No, l'hanno fatto. Marco Bianchi lo ha fatto. Sotto menti de spoglie, sotto le menti de spoglie di Jean-Jacques Maranon. Il concetto è ancora. Jean-Jacques, ma perché la Pixar fa un cartone animato che si chiama Luca? Perché è ambientato nelle Cinque Terre. Tra la Liguria e Terre del Fuoco. Tutte queste terre, insomma, vabbè. Beh, no, ragazzi, scherzi a parte, le Cinque Terre sono bellissime. Bellissime, è vero, insomma. E niente, no, dicevamo del brano di Chiara, che sicuramente non se ne manco, che sicuramente non ce ne manderà un altro, no, però diciamo che noi lo facciamo anche per giocare, perché comunque però sempre... potrebbe essere uguale a questo, e quindi tutto sommato esatto. Potremmo continuare a far mandare sempre, no, lo stesso. No, mica sciale veloce Simone, quel brano lì, così voglio vedere come rispondono le stupide creature. No, non ce l'ho purtroppo, no, così a bruciapelo, diciamo, che... se passiamo il turno lo sentiamo la prossima volta. Non volevo essere, io direi lo mettiamo in finale come inno. Prego, scusa, non Mauro. Non voleva essere una mancanza di rispetto, voleva essere un qualcosa di migliorativo. No, era una critica costruttiva. Esatto, è anche giusto, insomma. Va bene, noi proviamo a fare un collegamento, come al solito, insomma, i nostri potenti mezzi, potenti, bene amati collegamenti, che sono, insomma, perché cioè, alla fine siamo rimasti, come dire, un po' così da una cosa che è successa la scorsa settimana. Noi sapete che insomma parecchie cose le abbiamo fatte a puntate, come la storia insomma del VAR. E comunque non soltanto, abbiamo fatto varie cose che le continuavamo insomma a seguire le storie per sapere se avevano un finale, e la stessa cosa facciamo oggi, perché vi ricorderete sicuramente il tifoso austriaco, come si chiama? Dieter. La scorsa settimana, Scozia non mi leccare, mi fa schifo, insomma la scorsa settimana ci eravamo preoccupati di questo tifoso austriaco che però faceva il tifo per l'Italia e che poi alla fine la partita non è riuscita neanche a vederla. Allora, Dieter, ci sei ancora? Pronto? Noi non ti sentiamo, c'è qualcosa che non va. Ecco, è caduta la linea con l'Austria, perché ripeto, il satellite è sempre un problema, perché costa tanto, quindi prendiamo Stiamo provando a richiamarlo proprio in diretta, attenzione, sì. Quindi neanche, d'altronde ragazzi, non abbiamo una redazione che ci fa le chiamate, faccio tutto io, mixer, telefono, voce, tutto, quindi alla fine qualcosa... Scopa in culo, una cosa, una scena bruttissima. Esatto, ramazzare anche un po', sì, insomma. Però non squilla, quindi secondo me Dieter, secondo me non se l'è passata bene. Anche, mi sa che è finita male. Anche perché il suo sogno era quello, proprio di arrivare a questa sera, perché sarebbe andato a Monaco a vedere l'Italia se l'Italia avesse superato. Sì, perché poi ricordiamolo, austriaco ma tifoso dell'Italia, tifosissimo peraltro. Esatto, Dieter, ci sei? No, niente. Non c'è Dieter. Cade la linea, c'è un telefono pippa, insomma. Dieter. Qualcuno non ha pagato la bolletta. Esatto, forse potrei anche essere io, a dir vero, insomma. Va bene. C'è qualcosa che può coprire questo momento di defiance? fa mai male quando tenti di coprire le defiance tecniche. Fateci sapere quando le defiance sono finite. No, allora, stiamo cercando di ripristinare il collegamento, ma mi dicono che c'era proprio un problema tecnico con il satellite. Abbiamo telefonato alla NASA che sta riavviando il satellite. Ok, quindi un paio di minuti, anzi anche meno in realtà. Quindi è colpa di Dieter. È colpa del satellite americano. Io ho detto prendiamo quello russo. Tu no, americano, americano. No, però basta queste figure merda, non partecipo più a un programma di runtime. Fatti, senti Marco, non è che avresti un'altra papera da squartare nel frattempo? Scusa Francesco, così per guadagnare tempo. No, ma se vuoi abbiamo la stessa, posso vedere se ho dimenticato qualcosa. Se dentro, puoi sbucinare un altro po', intanto anche in differita. Ecco. Vai schifo. Guarda qua da dove sono uscito, guarda. Vabbè, basta, mi fa schifo. Comunque intanto la partita è ricominciata anche in differita, sì. Così. Io riprovo l'ultima volta a chiamare il nostro amico Dieter. Tra l'altro, se no dobbiamo preoccuparci definitivamente e pensare che gli sia successo qualcosa, insomma, cosa che non vorremmo naturalmente, ma vedo proprio dalla regia, mi fanno un segnale che proprio non prende. Io non vorrei fare strane allusioni o congetture, ma non è che niente il ragazzo è rimasto chiuso nel bagno? Non lo so, a meno che non sto chiamando qualcun altro. No, non credo, ti ripeto, io so che c'erano dei strani problemi con il satellite. Andiamo avanti. Mi dicono dalla regia che forse è stato ripristinato. Proviamo. Se lo dice la regia. Io ti consiglierei di ricominciare da zero. Da zero, ok. Allora riproviamo l'ultima volta. Proprio l'ultima, perché sennò, insomma, ragazzi, non è che. Parla. Intanto. Sì, io intanto sto guardando la partita, però è un momento concitato. Abbiamo Insigne in contropiede, però chiaramente il brusio ci dice: ahi, attenzione, non proprio. Attenzione, forse ci siamo riusciti. Allo? Pronto? Allo? Pronto, Dieter? Allo? Dieter? Chi che parla? Ciao, sono Simone, Runtime Radio, ci siamo sentiti l'altra settimana. Runtime Radio, aspettavo per chiamare, lo stesso io, sì, meno male che ha chiamato. Perdonami Dieter, ti sento un po' agitato e non capiamo quello che dici, vai piano, con calma. Respira Dieter. Se non prende bene qui io ho grosso problema. Io ho piccolo problema, dovete aiutarmi. Io sono andato l'altra volta. Sì. Sono andato l'altra volta, come detto voi, stavo dentro bagno. Sì. Perché ci fossero austriaci, che certo. Miei compagni che non molto contenti. Quando hanno perso partita sono usciti, hanno rumoreggiato. Mm-hmm. E quindi io mi sono rimasto chiuso dentro bagno. Hai fatto bene, non si sa mai, insomma, giusto? Ho aspettato di non sentire più rumori di gente. Poi quando sono uscito mi sono reso conto che è stadio chiuso. Ah, quindi sei rimasto dentro lo stadio? Sono rimasto chiuso dentro stadio, quindi io adesso è da settimane che... Ah, una settimana. Scusa, quindi aspetta Dieter, com'è fatto a uscire quindi? Non è uscito, mi sa. Non sono uscito, io sto guardando stadio, mi sto nutrendo mangiando merentini di magneti di merda da una settimana, non ce faccio più io. Ok, scusa, non puoi chiamare, che ne so, le forze dell'ordine, la polizia, così? Posso chiamare nessuno di io, perché stavo chiuso dentro il bagno, ho consumato tutto il credito. Non posso chiamare nessuno, non mi chiama nessuno, perché io ho detto non chiamare come questo, okay. Pare che tanto vi mando fanculo. Ok, noi ci sentiamo malissimo, devo dire la verità, infatti non, oltre al credito penso pure la batteria non è che stia proprio un granché. No, anche qui non prende, sto dentro stadio, ma dentro stadio non prende dove sto adesso. Ok, va bene. Comunque, ci dispiace, quindi sei rimasto là dentro tutto questo tempo, ma nessuno si è preoccupato, familiari, niente, nessuno... Non ti preoccupano, perché io quando mia moglie e i miei figli, che sono austriaci, che non tifano molto Italia, esatto. E allora io gli dico non mi chiamate qui fino a fine di europeo, non chiamate, che tanto io giro per Europa e non mi cacate cazzo. No, però non è un bel termine. Però scusa, potremmo dare una bella notizia a Dieter in questo momento, perché sì. L'Italia sta battendo il Belgio per 2-1. Ah, quindi l'Italia ha vinto l'altra volta? Sì, ha vinto. Infatti il tuo sogno che c'era scritto... Ma infatti questa era la prima cosa che volevo chiedere, sapete? Se l'Italia aveva vinto, sì, perché sì. Mi è finito credito e quindi io sono rimasto praticamente neanche le notizie. Ok, neanche le notizie. Okay. No, niente, proprio zero. Ok, quindi praticamente... E poi la seconda cosa, chiamate per cortesia, chiamate forze di ordine. Di... la polizia, di Wembley, perché com'è il numero della polizia? I poliziotti di Wembley che mi sono sì, è vero, hai ragione, è vero, la partita era io sto ancora in Inghilterra, to. Quindi the police the Scotland Yard dobbiamo chiamare. Qual è il numero? Se ricordate, sì, mi chiamate, che mi fate venire, che mi sto finendo tutte merendine. Voi non sapete che come gli ho ridotto bagno. Non sapete come io ho ridotto bagni, che è meglio che non sanno come io ho ridotto bagni, che li ho intasato con le merentine, non sono buone. Sei indeciso se farti venire a prendere o no, alla fine, anche un po'. No, fatemi venire a prendere, io voglio vedere Italia. Ok, no, però nell'articolo c'era scritto che tu sognavi che l'Italia passasse al turno perché saresti andato a Monaco di Baviera a vedere la partita, quindi non ci sei andato, ovviamente. Come faccio ad andare? Io sto più qui dentro da una settimana, mangio merendine. Vabbè, merendine abbiamo capito, però sono buone merendine, dai, magari sarei un po' sono buone, ma dopo una settimana cacchi di merda, cacchi schifo, cacchi robaccia. Ok, ma le monetine come fai? Però scusa, ho spaccato vetro. No, queste non so, immagini. Bisogna sopravvivere, hai ragione. Però io volevo tranquillizzare Dieter, perché al momento la UEFA ha confermato la finale a Londra. Wembley. Quindi qualcuno prima gli aprirà prima o poi. Sì. Al massimo la prossima. Io non posso aspettare, finite quasi tutte le merendine di stadio. Cominciando a mangiare popcorn caduti per terra, che è una cosa brutta. Che non schifo. Mi fate mangiare popcorn caduti per terra. I sorci, devi mangiare i sorci. Troppo veloci, sorci, sono troppo veloci, non riesco a correre dietro sorcio. Riflesso, ok, no. Va bene. Francesco, hai qualche domanda per il nostro amico Dieter? Sì, volevo rassicurare anche sul fatto che, guarda, non gli è andata male, perché poteva rischiare di stare qualche giorno in Inghilterra, e lì altro che merendine, deve mangiare quello che mangiano in Inghilterra. Ma lui sta in Inghilterra. Ma io sto in Inghilterra. Sto mangiando merendine di merda inglesi. Vabbè, stai calmo, Dieter, l'abbiamo capito, dai. L'ha presa male sta cosa, eh? Esatto. Vabbè, non ci andrà più allo stadio. Allora, voi mettetemi i miei pani chiusi dentro stadio di merda da una mia settimana, mangiare cibo di merda di una settimana. Senza offesa, non sapere come, che fine ha fatto Italia, non sapere cosa sta succedendo in Italia. Io sono perso, io sono devastato. Scusa, Dieter, senza offesa, ma i tuoi pani dopo una settimana te li metti solo infatti, te. Infatti, sì, cioè, non li vogliamo. Comunque, grazie. Basta che mi chiamate. Chiamiamo la polizia. Sì. Poi ci sentiamo. Mi fate uscire per cortesia. Grazie. Poi vediamo, insomma, se dovessimo passare, ci sentiamo per la semifinale. Se sempre se non. Grazie. Grazie. Fammi questo grande favore per cortesia. Buonanotte. Da tifosi italiano. Viva l'Italia. Ciao. Viva Italia sempre. Ciao. Grazie, forse Dieter. È stato un momento. Tanto io sento che sta ancora parlando sotto. Ora io non vorrei dire, però secondo me è una cosa brutta, sì. No, però onestamente facciamo un discorso alla Barbara D'Urso, quasi la spietatezza di Rete 4. Io lo lascerei lì, perché prossima settimana ci solleva l'audience. Ovviamente dice Dietrich da due settimane. Quella Marlene Dietrich, è vero. Però ti immagini due settimane con gli stessi vestiti a mangiare merendine, che spettacolo. Poverino. Gli manderei una troupe video e farei la diretta su Twitch. Sì, The Survivors, Stadium Survivors. Esatto. C'era la sigla di Stadium Survivors, non so se tu te lo ricordi, sicuramente Stupide Creature. Sicuramente posso farci la cover, sì. Sì, allora noi in realtà questo brano l'abbiamo inciso nel 91 per primi. Quando avevate 12 anni, giustamente. Perché se in 82 avevate 2 anni. Io 11, sì. 11. È stato molto bello, perché ci hanno riconosciuto anche un premio, che però non siamo mai andati a ritirare perché non eravamo maggiorenni. Esatto, non potevate. Giusto. Quindi è rimasto lì. Se la riconosco, lei grande. Mi ricorda l'adolescenza. In the bathroom. Le pippe. At the Wembley Stadium. Eating shit cake. Having diarrhea. And dysentery. But fortunately, I had the water, tap water. I clean my body every day, body clean. Thank you. clean my body every day. Without soap, was finished, but better than nothing. I use water, I'm swimming in the lavabo, and I'm still alive. I'm still alive, ever and never. Sopravvissuti dentro un bagno di uno stadio. Nello stadio. Dentro il bagno. Amicizie strane con scarafaggi e qualche ratto. E qualche ratto. Ma ora sono solo brutti ricordi. Adesso è tutto diverso. The stadium now is better. It's clean, it's bigger. E soprattutto c'è quello che vende le patatine e gli snack. Ma adesso mi ha detto che ha un progetto più interessante. Vuole andare a Montecitorio. Montecitorio. Montecitorio. What we gonna do when the... Ma che vuol dire? Niente, così. Oh yeah yeah. When the bibitaro's gone. What we gonna do? What we gonna do? Bibitaro, don't go! Vabbè dai, comunque... Bibitaro, don't go! Esatto. Bibitaro! I'm still alive without Bibitaro. Bravissimi, bravissimi. Storia di fame e amicizia. Allora, io vorrei dire due cose. Non so se è Skype o se era proprio così, perché la batteria ogni tanto accelerava. Così. No, è Skype. Però Skype. Anche loro fanno queste cose. Sì. È scritta così la parte proprio. È okay. Un virtuosismo, esatto, Marco. È un virtuosismo. Virtuosismo. E comunque sì. Il Belgio sta pressando. Diciamo che psicologicamente adesso l'Italia ha un po' accusato questo rigore che l'ha nervositi, diciamo così. E insomma, speriamo di poter. Infatti, il Belgio sta pressando nella propria metà campo in questo momento. No, adesso l'Italia che la ne attacco, però vabbè, viene falciato brutalmente, però diciamo che se le danno senza neanche promettersele, se le danno e basta. Sì, diciamo che anche l'arbitro insomma, è abbastanza condiscendente. Comunque ci ascoltiamo l'ultima intervista relativa al calcio amatoriale che ci è rimasta, insomma, così intanto noi prendiamo un po' di fiato, giusto Marco? Sì vai, questa è l'ultima. Cari amici, benvenuti alla quarta puntata dell'approfondimento calcistico che si intitola appunto Calcio Analisi, dedicato al calcio amatoriale. Questa settimana siamo andati a Sondrio, signore e signori, un derby fra cugini. Le squadre in campo questa sera sono Vagli Sopra e Vagli Sotto, due squadre della Valtellina. Due squadre importanti, importantissime, che hanno dimostrato un calcio davvero sopraffino e anche sottofino, possiamo dire. Atteggiamenti lascivi fin dal primo minuto. Sì, e anche molto equivoci. Al fischio arbitrale ci sono state subito delle dimostranze da parte del Vagli Sopra, quasi intimidatorie nei confronti del Vagli Sotto, che però si è difeso. Assolutamente sì, voleva quasi ribaltare la situazione ma non ce l'ha fatta per una questione di forza fisica. Sì, e comunque il Vagli Sotto restava comunque schiacciato dal Vagli Sopra. Specialmente nelle esultanze, nei gol, rimaneva sempre sotto. Abbiamo visto quasi un atteggiamento passivo. Sì, e questa è una cosa che in Valtellina davvero non ci saremmo aspettati di vedere. Di solito c'è un calcio molto pulito, un calcio quasi, oserei dire, freddo per certi versi, ma qui del resto si giocava la Coppa Brisaula, o Bresaula, a seconda della provenienza, o Bresaulea o Bresauloa. Il finale della partita è stato emblematico perché il Vagli Sopra ha letteralmente aderito fisicamente al Vagli Sotto. Cosa ne pensi, Mauro? Ha fatto una brutta figura al Vagli Sotto, è rimasto schiacciato da questa sconfitta. Il Vagli Sopra ha letteralmente dominato la partita e resta in cima alla classifica, a differenza del Vagli Sotto che ha subito tutta la partita ed è oramai in fondo alla classifica. Vi salutiamo qui dalla Valtellina, in particolare dalla provincia di Sondrio. Siamo a Vagli sopra e ci sposteremo fra poco a Livigno per andare a mangiarci una bella bresaola e più precisamente nel paese di Tre Palle. Un saluto a tutti dalla Valtellina. Ottimo, ottimo. Insomma, anche questo sempre un contributo interessante, soprattutto l'adesione fisica, insomma, diciamo che è sempre... Posso dire prego. Che anche questo contenuto ce lo siamo levati da cazzo, bello, insomma, bello. Diciamo, ok. Beh, è un po' come il brano della settimana. E va bene. Allora, Marco, insomma, tu qualche cosa sul Belgio? Hai raccolto qualche informazione? Non abbiamo più parlato di questa cosa del Belgio. Cioè, il Belgio cosa... è uno dei tanti paesi europei tristi che allevano, così, allevano barbabietoli da zucchero. Allevano i barbabietoli. E quello è il problema. Cioè, tu prova ad allevare la barbabietola, cioè, una noia mortale, ragazzi. Ah, devi da mangiare, lei sta lì ferma, non fa niente. Nemmeno sfidanken. Diciamo che usano la barbabietola simulando che è un Tamagotchi. Esatto, gli danno cibo, gli danno da mangiare, da bere, ma lei non fa un cazzo, sta lì. Non so se chi si ricorda il Tamagotchi. A voglia. Ma in chat dicono qualcosa, Sbano? Ma in questo momento vediamo subito, guarda, perché avevo il... in realtà il culo bagnato, diciamo la verità. Cioè era meglio morire da piccolo con i peli nel culo a batuffolo, sì. E dunque, niente, sostanzialmente è passata a salutarci così proprio al volo Melanie, e quindi ha lasciato un saluto in chat e Olivia ha risposto. È un morto sbelga. Dopodiché, insomma, così. Attenzione, sentiamo dei brusii da fuori. Sai che c'è un altro rigore. Quindi, per favore, chat, spiegateci. Sai che c'è un altro rigore per il Belgio. Ho sentito delle nia. Sai che c'è un altro rigore per il Belgio, sì. Non lo so perché. Però se danno anche, questo. Beh, questo non è un rigore. No, ma non può essere questo perché almeno. No, se c'è spiegato da solo. No, c'è un calcio d'angolo. Ah, allora, attenzione. No, stavano esultando i difensori, ok? Non si attenzione, stavano. Attenzione, però, in chat nessuno reagisce. Quindi esatto, io spererei che nel calcio d'angolo non ci siano. La morte. Sviluppi. La morte. Che insomma, diciamo che questa volta, rispetto alle altre volte, siamo un po' più attenti alla partita. E questo è male. Perché la partita non va cacata. Esatto. Allora, attenzione perché Arturino ci dice le barbabietole le hanno sostituite. Da bambù per sfamare i panda perché così è un animale autoctono tipicamente belga. Potrà essere uno dei prossimi animali. Esatto, il panda viene riempito di cioccolata. Attenzione col panda, io vi ricordo che la Cina ci potrebbe dichiarare guerra. Esatto, non so se ci conviene. No, la Cina del panda non frega un cazzo, come l'impressione. Beh, insomma, no, non gli frega niente, perché è un animale stupido. Ma la Cina dichiara guerra a prescindere. In realtà è un animale cattivo, non è un animale stupido, è un orso piuttosto... è un orso carnivoro che ha deciso di mangiare bambù per, come dice Barbascura, che senza nessun motivo, per alimentare l'autoincazzatura, senza nessun motivo, tra l'altro, cioè, ha scelto di mangiare una cosa più schifosa del mondo, ma vabbè, forse ce n'era bisogno. Sì, che poi insomma, da chi lo conosce dice che il bambù è veramente cattivo. Col panda, cioè. No, anche il panda, ma il panda è cattivo perché mangia il bambù e mangia cose cattive. Va bene. Però basta parlare di panda, stiamo parlando di Belgio. In Belgio ci sono tre notizie. La notizia principale è che il WC è sempre separato dalla doccia, cioè sono in due luoghi separati. In due stati, vabbè, quasi con è giusto, no, uno si confonde. Ma non c'hanno manco orbita, quindi cioè, quando vanno a cacare, c'hanno il culo sporco e se lo tengono sporco e non c'hanno scuse perché c'hanno proprio la doccia da un'altra parte. Cioè, capito? Questa quindi cosa. Per andare a farsi la doccia ci non ci vanno, non ci vanno. Perché andarci? A quel punto, quando ti sei tirato su le mutande, hai superato il punto di non ritorno. È inutile a quel punto andarsi a lavare. Scusa Marco, però io ho ripristinato un attimo un collegamento con il Belgio. Roberto Tomaiuolo, giusto? Eccoci. Qui adesso siamo al 20° ancora del primo tempo per via del fuso orario. Okay. C'è ancora solo 0-0. Okay, aspetta, che voglio intervistare qualcuno degli astanti belgi presenti. Ok, adesso che aspetta un attimo. Scattano le botte, attenzione. Scateniamo le botte. Aspetta, metti un attimo in muto. Prego, così prego. Faccio la domanda. Allora, senti. Allora, tu fai finta di essere un astante belga, mi raccomando. Ma non l'ha messo. Fingi un accento belga. Okay, quindi sai fare l'accento belga? Oui. Okay, va bene. Aspetta che tolgo il muto. No, ma non l'hai tolto il muto. Tolgo il muto. Allora, va bene, tolto il muto. Vabbè. Come ti appello? Come ti chiamo? Come ti chiamo? Pronto? C'è un attacco isterico. Non sa come si chiama. No, ma è facile, come ti chiama? Si dice je m'appelle. Françoise, ce l'abbiamo fatta. Io pensavo, lei di Oscar. Hai visto la partita, Françoise? Oui. Ah, oui. Quanto siamo? Qua. No, ma che partita hai visto? Allora, vabbè, non importa. Mi scusi. Ma che squadre stanno giocando? Brasile. Come Brasile? Brasile, giusto. Vabbè. Lasciamo. Questa è la birra. Il collegamento qui è un po' confuso. Sì, ho una vaga impressione, caro Roberto Tomaiolo, che lei non è esattamente in Belgio. C'ho questo strano. No, perché dubita di questo fatto? Non lo so, però questa sensazione proprio è tutta una cosa. Secondo lei io farei questa cosa per il vile compenso che lei mi ha promesso? Sì, perché cioè, lei, io ce l'avamo accordati, quindi lei ha provato. Poi dopo è dovuto andare via dal Belgio, ma dice: però se io lo dico, poi dopo non è capito. Questo deve essere successo. Questo lei pensa male, male. Lo so. Comunque, qua sono molto confuso. Ancora non hanno preso bene la cosa. Ok, se vuole le dico come sta andando, perché egli lo può dire. Insomma. Sì, per favore. 2-1 per l'Italia. Il Belgio ha segnato su calcio di rigore. Porca puttana, e perché calcio di rigore? C'era il rigore? No, secondo noi no. Però vabbè, sono scuole di pensiero quello che diciamo. Sì, ma noi potremmo essere tendenzialmente vagamente di parte. Sì, e poi vabbè, tanto anche va bene. Comunque sia. Rigore è quando arbitro dà, quando arbitro fischia, esatto, bravo. Bucio di Imbosco. Mitico. Grande. Bene, Bucio. Grazie Roberto, ci saluti il Belgio, non mancherò e buona serata. Poi vi chiamo alle 2 di notte italiane quando sarà finita anche perfetto, grazie, arrivederci. Ciao. Intanto sta morendo morendo il computer di Pizzi non sta tanto bene, sta facendo girano l'evento in una maniera come se però per ora non si sente nei microfoni, per ora non decolla esatto. Penso che prima o poi insomma dovremmo dargli anche. Comunque volevo dire una nota storica simpatica sul Belgio. Vai. Non tutti sanno che il Belgio è una monarchia, sì. Esatto. È uno dei primi monarchi, in particolare è famoso, che ha vissuto tra l'Ottocento e inizio del Novecento, un simpaticone chiamato Leopoldo II del Belgio. Sì. Sovrano, figlio di Leopoldo I del Belgio. Ma Mastelloni? Il cazzo. Sto simpaticone, a lui gli piacevano molto l'Africa, lui fondò praticamente lo Stato Libero del Congo, quasi da libero, cioè ci teneva tanto a fare sto Stato praticamente suo, governato da se stesso. Ricordiamo l'inno del Congo, bongo, Congo. Una canzone, l'inno fa una fantastico, va bene. Io avevo una compagna di classe del Congo, il Congo belga esattamente. Sì. Infatti parla francese. Praticamente era lui, buona, visto che il Congo è abbastanza ricco di risorse, tra cui minerarie e la gomma dalle piante di gomma, giustamente. Rubber trees. Ha fatto questa cosa molto, cioè, molto umana, di prendere tutti i congolesi che poteva e gli dava giustamente un lavoro a tutti. Bravo, estraetemi da Congo e io in cambio, se mi portate la quota giusta, non vi mutilo le mani. Bello. Incentivazione alla Roma, giusto. Una ventina di anni ha stempiato un 10 milioni di congolesi. Stempiato? Ha stempiato, ma ha fatto stirare le zampe. Ok, stempiato nel senso stira le zampe. Ok, quindi non è un genocidio, è no, di più. È un'incentivazione. No, io lo chiamerei disoccupazione speciale, cosa del genere. Disoccupazione definitiva. Cassa integrazione eterna. Esatto. La mettiamo in stato di disoccupazione definitiva. In immobilità. Esatto. Peraltro dice Arturino Mazzei in chat che il Congo belga era proprietà privata del re del Belgio, per cui faccio un po' come cazzo mi pare. Era il suo porco giochi praticamente. Esatto, il suo porco giochi anche un pochino, volendo. Madonna mia. Certo, il ventunesimo secolo fa schifo, ma non è che quelli prima. No, diciamo che il periodo coloniale europeo insomma è stato abbastanza triste. Per fortuna che è finito. Ma comunque se vuole Arturino Mazzei lo chiamiamo, dato che lui è veramente in Belgio, magari ci dice un po' com'è l'atmosfera, si affaccia dalla finestra, ci dice che cosa percepisce di questo popolo in tensione, perché sta giocando, insomma, si sta giocando questa semifinale con noi. Attenzione, sempre questi tiri a giro, attenzione, sostituzione del Belgio. Va bene, io adesso... Escono 15 giocatori, ne entrano 22. Io adesso faccio una cosa, mettiamo un bel brano, vado a lavorare delle stupide creature, così io provo a contattare il dottor Pippo Campo. Cosa ne pensate, ragazzi? Siete contenti? Sì, sì, sì. Vi piace questa idea? Yes, sa. Non dimostrate troppo entusiasmo. Io sì, però gli altri. Sono molto attento alle sostituzioni. Okay, io ho paura, non vorrei mai innervosirlo il professor Campo. Bravo, capisci? Esatto. Quindi si innervosisce? No, però. Oh, sai, no. Va bene. Lunedì vado a lavorare, martedì vado a lavorare, mercoledì vado a lavorare, giovedì vado a lavorare, venerdì vado a lavorare, sabato vado a lavorare, domenica sono depresso perché lunedì vado a lavorare, martedì vado a lavorare, mercoledì vado a lavorare, giovedì vado a lavorare, venerdì vado a lavorare, sabato vado a lavorare, domenica sono depresso perché e son condizionamenti in questa vita di stenti. A lavorare devi andare se vuoi mangiare. Ogni essere umano è un capolavoro. Infatti un Picasso vale 40 milioni. La mia vita 1000 euro al mese. Vorrei sapere chi ha detto deve lavorare, non ho scelto di nascere, perché devo guadagnarmi da vivere. Lunedì vado a lavorare, martedì vado a lavorare, mercoledì vado a lavorare, giovedì vado a lavorare, venerdì vado a lavorare, sabato vado a lavorare, domenica sono depresso. Perché lunedì vado a lavorare, martedì vado a lavorare, mercoledì vado a lavorare, giovedì vado a lavorare, venerdì vado a lavorare, sabato vado a lavorare, domenica sono depresso. Perché? Sì, sono depresso. Questa sera ho deciso vado al jazz club, così mi rilasso un po'. Non voglio assolutamente sentire parlare di lavoro nessuno. Ah. Quando mi ammalo devo presentare un certificato medico. Dimostri il mio stato di salute. Ma non c'è certificato che dichiari il mio disagio. Vorrei sapere chi ha detto che il lavoro non mi ridà l'uomo. Non sono mica d'accordo, sorrido, sono schiavo. Se qualcuno ha deciso per me, yeah. trovo ad un bivio. Non so cosa fare, andare diritto oppure svoltare. Ho un'idea, torno indietro e vado a lavorare. Ciao Giscardo! Ciao Baldovino! Cosa ci fai in garage completamente nudo? Sto facendo esercizi per il mio corpo! Caspita! E di cosa si tratta? Sto allargando il mio sfintere! Sbenedrisco! E come mai? Me lo chiede l'Europa! L'Europa? Sì! Ma non è doloroso? Moltissimo! Ma con un po' di perseveranza ho già quasi introdotto il Belgio! Incredibile! Posso farlo anch'io? Certo! Te lo chiede l'Europa! E beh, il Belgio non a caso, insomma, quasi quasi profetica questo, sì. Questo brano musicale. Speriamo di grazie, no. Grazie, il Belgio sì, il culo grazie, grazie, grazie, sì, grazie, sì. Che poi è la parte più importante, insomma, il grazie, très bien, grazie. Très bien. Bene, bene, adesso stiamo facendo un collegamento che non intanto, è però quello che abbiamo previsto. Intanto che tu lanci il collegamento abbiamo Spinazzola con i crampi quelli brutti, ricordano USA 94 per farvi capire il genere. E vabbè, fa caldo, sono cose, sì. Insomma, comunque abbiamo un collegamento con la nostra inviata, Michela De Paola, buonasera Michela. Salve a tutti. Michela che in questo momento è collegata con diciamo una manifestazione di piazza dove gli italiani stanno vedendo la partita contro il Belgio. Sì, no, veramente c'ho gli occhi di tutti gli italiani e gli irlandesi addosso, quindi non lo so che cosa devo dire, non so più. Ma infatti io non sento niente, non mi sembra che ci sia questa cosa, questa partecipazione. Perché abbiamo spento tutto per l'occasione, perché c'è una radio nazionale che ci sta ascoltando, quindi International Radio. Michela, che cos'è un International? Che cos'è un ecco. Secondo me sono tutti ubriachi. Francesco non è una droga. Una droga. C'è un cane che cerca di possedere un irlandese in questo momento, quindi non lo so. Dicendo quando mi ricapita. Bene, ma lei ci ha chiesto il collegamento per quale ragione? Perché le passo l'irlandese che è pronto, carico per raccontargli cose. Intanto le passo il padrone della festa. Il padrone della festa. Non è tuo gran casino. Simone. Yes. Simone. Yeah. Ciao. Come stai? Tu sei quello di prima. We're having a little bit of a moment here with a little scraggy hairy friend. sniff my balls. So am I back on air? This is okay. Tutti imbriachi, tutti imbriachi. It's okay, it's okay. Make your way over, my friend. Just make your way over, and we'll talk about it then. We've got the shock therapy ready for me, so we'll let you push the button, okay? Va bene, sei troppo casino. La salutiamo. Fai fare un saluto generale. Fai fare un saluto generale. Ma mi sono mancata. Un saluto a tutta la radio. Sì, ma sento che lì stanno ubriachi tutti quanti. Sì, abbastanza. Ma si è morito per tutti. Poi quando cazzo venite, ci dicono. Si è morito anche per voi. Va bene, arrivederci. Grazie. Arrivederci. Grazie. E qui purtroppo ti salutano, Michela. Vabbè, è andato il collegamento. Io è andato. Solo una cosa: the penis on the table. Sì, anch'io. No, io ho capito. The penis on the table. Ho capito solo. It's okay. No, it's okay. Ah, anche. Sto cazzo. Va bene. Niente. Ragazzi, nel frattempo se lo stanno a portare via in preda agli spasmi e dolori più brutti in barella, legato. Una scena veramente. Barella. Spinazzola sempre. È una brutta storia. No, infatti, non so crampi normali. È il crampo europeo questo. Sono dei crampi dovuti dal caldo. Non ricordiamo, lo so, che giocano. Dove giocano? Speriamo. A Monaco di Baviera. Quindi non è che dovrebbe gradi. Fare. Beh, insomma, dai. Sì, vabbè, ma non è manco 20, no. 20 gradi. Insomma, capito, però, è giugno, quasi, cioè inizio luglio. Sì, fa caldo. Non lo so. Sentiamo Mauro, che lui diceva spesso a Monaco di Baviera. Com'è il tempo in questo periodo? È greco? È tutto nuvoloso. Ma tu sei Marco, non sei Mauro? Sì, ma gli stavo suggerendo la battuta. Ah, ok. Mi ricordavo se ero l'unico Mauro, e questo è il discorso. Sei l'amico del giocatore svizzero, la Embolo. Sì. No, Simone, noi sai perché è arrivato l'ospite di cui ti parlavo in chat l'altro giorno? Quel signore che ha ingoiato una vusela per sbaglio nel 2010. Okay. Vai, tutto tuo. È arrivato in questo momento il signor Lanfranco Domizzoli, ce l'abbiamo qui con noi, e insomma volevamo fargli delle domande perché comunque in un modo o nell'altro comunque è stato vittima del calcio anche lui, ingoiando questa vuvuzela. Mauro, vuoi fare una domanda? Sì, volevo chiedere al signor Lanfranchi, giusto? Lanfranchi. Sono distratto questa sera, mi scusi signor Lanfranchi. Ben arrivato. Il signor Lanfranchi è contento di essere qui con noi questa sera. Capito chiaramente, Marco. Mauro, io non ho capito, scusa. Non ho capito cosa ha detto. Non essere così impertinente, cioè non puoi discriminare. No, ma perché? Scusi, signor Lanfranchi, diversamente abile, mio conduttore. Ah sì, ha detto che comunque non si è offeso perché è abituato, che la gente non capisce. Ma tu stai inventando. Ma che stai inventando? Sto inventando, secondo lei. Dice che non sto inventando, che sono uno dei pochi personaggi che conosce, che lo capisce. Dice che si sente solo da tempo perché non lo capisce nessuno e non gli sembra vero, sembra quasi di parlare con voce normale, via. Ah, cioè, tu hai capito da questa cosa qua? Certo. Allora, prova a chiedergli anche, no scusi, lo chiedo io se posso. Non è che ce l'ha buona, eh? Sì, no, non si sa mai le volte. Ecco, cosa è successo esattamente quel giorno? Come ha fatto a ingoiare una vuvuzela? È lungo, discorso lunghissimo. Inciampato. ma infatti io volevo domandare, ma ingoiata non è che ci si è seduto sopra, vero? No, subito, sempre. No, questa l'ho capito anch'io. Questo era chiaro. L'hai sentito. Anche sì. No, mi rendo conto, ma quindi, mi scuso, piccato, non voleva essere una domanda provocatoria. Detto che ti scusa comunque. Nonostante tutto. Grazie, veramente lo apprezzo perché... Essere scusati da... E quindi qual è... Posso fare io la domanda? Mi sente? Sì, prego, ci mancherebbe. Sì, no, ti sento benissimo. Volevo chiederle, ma praticamente adesso questa chiaramente è una situazione un po' invalidante. Immagino che comunicare con la gente può diventare un po' complicato, giusto? Esatto. Chiaramente l'ha detto. Insomma. C'è una soluzione a questo problema? Cioè, nel senso, farà un intervento chirurgico? Si è informato da un luminare? No? Quindi, sì, non l'ho capito. Io sono d'accordo comunque. No, non l'ho capito l'ultimo pezzo. Se Mauro, se ci. Solo io non capisco. Sembrava il bitonale del camion. Uguale. No, no. Detto che comunque adesso si è abituato, quindi non vede la necessità. La necessità. Ah, beh, ma l'ultima domanda: ma quando è sotto la doccia e canta? Che beh, sì, capisco, immagino. Risente lo strumento un po' dell'umidità, però. Certo, mi ci faccia sentire una canzone mentre che canta, così faccio, ci canti un pochino. Cioè, deve cantare, non so. Ma che sta? È Natale. Jingle bell, jingle bell. Non c'entra molto, però. Il clima è proprio quello adatto. Sì, non è una canzone, ha detto solo cantaci. L'avete riconosciuta tutti, no? Questa, esatto. Questa sì, beh, questa sì, sì. È semplicissima. Come avremmo potuto altrimenti. Va bene, è bella però questa intervista. Continuate se dovete intervistare. Io volevo solo, c'avevo solo questa curiosità. No. Penso che sia finito. C'è ancora una cosa da dire? Ah, sì, una piccola cosa. Sì, dica, prego. Praticamente ha detto che quando lo intervistano per tanto tempo, quando gli tocca parlare per tanto tempo, ha questa situazione che comunque sale di tonalità e gli va via un po' il suono. Quindi si sfiata, insomma, diciamo così. Vabbè, interessante, molto interessante, ma rimane con noi a vedere la partita? Sì, rimane con noi. Non lo so, vuole restare con noi? Preferisce andare? No, resto. Io, se è possibile, vorrei fare solo una domanda. Vai, vai, prego, prego, vai. No, volevo sapere se in tutto questo. È Marco Gualdi è quello che fa la domanda, magari le interessa. Sì, sì, sicuramente le interessa. Volevo sapere se tutto questo, cioè i suoi rapporti interpersonali, non so, come con la ragazza, con la fidanzata o al lavoro, cioè se hanno subito in qualche modo anche questi, che sono un po', cioè, contatti un po' più stretti, hanno subito dei danni o comunque in qualche modo è riuscito a compensare. Mi sembra un insomma. No, infatti. Quindi, cioè, nel senso che comunque ha difficoltà con l'altro sesso nel farsi capire. Vabbè, però non essere discriminatorio, che ne sai, ma soprattutto sesso, non essere indiscreto, sesso, soprattutto. Cioè, secondo me, però, parlando, secondo me il signore se ne fa di quelle trombate. Cioè. Ecco, per esempio, come si è arrivato, sì, allusivo. Sì, però secondo me lo stiamo mettendo in imbarazzo. È difficoltà, è vero. Ma quando ride, come fa quando ride? E non lo so, bisogna fargli una battuta. Mauro, fai una battuta. Allora, ci sono due elefanti in una vasca da bagno. Uno dice all'altro: mi passi il sapone? E l'altro dice: radio. Vabbè, è veramente un caso umano. E noi ci piacciono i casi umani, perché li sentiamo parte di noi in qualche maniera. Ci sono altri casi umani. Infatti, la nostra si chiama Runtime Radio, la radio, la web radio dei casi umani. Chiaramente, esatto. Anzi, ci faccia la pubblicità. No, questa era una scoreggia. Wow, stavo dicendo io. Ha finito di comunicare, veramente. Insomma, vabbè. Ok, va bene. Grazie comunque. A proposito di interviste, a questo punto, dato che siamo quasi alla fine della partita, sperando che rimanga questo risultato, Marco Bianchi, sempre rimanendo in tema di Belgio, ha fatto un'intervista importante, diciamo, perché insomma fa parte. Sì, devo dire. È stata anche molto difficile, Simone, perché per reperire il numero di telefono ho dovuto veramente diventare pazzo, però come molti di voi sapranno, il Belgio ha inventato forse poche cose, non vorrei essere discriminatorio. Poche cose, ma buone, soprattutto il famoso cartone, la famosa serie I Puffi, e siamo riusciti ad intervistare senza neanche troppa facilità, devo dire, Puffetta. Ecco, abbiamo fatto un'intervista a lei. Cari amici, benvenuti alle nostre interviste particolari, quindi le stupide creature che riescono a carpire personaggi del mondo dello spettacolo, della cultura, da portarvi, da intervistarvi in questo contesto, che è un contesto prestigioso. Siamo riusciti ad arrivare a Puffetta, che ringrazio, che è qui vicino a noi e che così noi vorremmo intrattenere facendo quattro chiacchiere, mostrarvi anche un altro lato di quello che può essere il mondo quale siamo abituati a vederla. Allora, Puffetta, come stai? Ma insomma, guarda, non è che stia tanto bene, sinceramente. No, come mai? Ma perché c'è qualche problema di salute? No, la salute va bene, no, ma io Il problema però grosso mio è che sono in causa praticamente con quasi tutto il villaggio. Addirittura in causa? E come mai? Che succede? Possiamo chiedere, ovviamente, una cosa pubblica, insomma. Sì, ma purtroppo è una cosa pubblica, ormai lo sanno tutti. Purtroppo ho dovuto fare causa a Puffo Forzuto, perché quello quando beve poi mena. Poi ho dovuto far causa a Puffo Chef, perché Puffo Chef fa da mangiare, poi mangia pure la parte mia. E io non sto mica a dieta, cioè una volta forse potevo stare a dieta, adesso la mia età, se permetti, mi girano. Ecco, quindi ho fatto causa a lui, ho fatto causa a Puffo Falegname, perché mi ha aiutato a far sulla porta nella mia casa e non è riuscito, capito? Cioè non c'è riuscito. Ho capito, e quindi diciamo, insomma, sono un po' di scocciature, immagino. Ma scusa se magari mi sbaglio, ma io ho l'impressione che all'interno della vostra comunità, del vostro villaggio, ci sia comunque una figura di riferimento che riesce a gestire anche magari il malcontento, una figura saggia, no? Cioè, penso una figura saggia, scusami, mi riferisco al grande Puffo, non interviene su queste questioni? Sì, va bene, capirai, guarda, il grande Puffo lasciamolo proprio perdere. No, ma guarda, tu non puoi capire. Allora, il grande Puffo, allora, innanzitutto lui ha quel costume rosso che ormai è nero, che non si lava. Non si lava, gli puzza il fiato, le ascelle, non ne parliamo, la barba, guarda, una roba, un putridume, non si lava, si è lasciato andare, non è disponibile con i puffi, non ce la fa, è diventato veramente prepotente, è diventato un so tutt'io, e poi non sa nulla, perché di fatto lui risulta saggio davanti alle telecamere, no? Allora, alle telecamere si pulisce, improvvisamente, oh, guarda qua, guarda caso, guarda, il grande Puffo si pulisce, e invece no, lui durante, e questo lo dico, perché ormai è agli atti, lo sanno tutti in villaggio, e lui non puffa più. Come, scusa? Lui non puffa più. Puffare che cosa vorrebbe dire esattamente? Perché lo usate, mi ricordo, per vari verbi, vari significati, ma esattamente in questo caso cosa vuol dire? Beh, puffare è puffare. Vabbè, puffare è puffare. Però voglio dire, appunto, nonostante i suoi problemi di igiene, come state vivendo invece, almeno questa occasione in cui c'è la nazionale, la vostra nazionale, nei quarti di finale con l'Italia? Insomma, comunque è una cosa positiva, no? Per no, voi. Guarda, non mi parlare di calcio. Prima di tutto, vabbè, a me non è mai piaciuto. Poi ti devo dire che ho cercato di vedere i mondiali con Puffo Tontolone, ha sfondato il televisore 4 anni fa, perché è un cretino, cioè lui fa cadere qualunque cosa. E poi 3 anni fa ho cercato di guardare invece gli europei con Puffo Quattrocchi, ha perso gli occhiali, capirai, quello non vede manco con gli occhiali, figuriamoci senza. Quindi praticamente cosa ha fatto? Ha acceso il televisore, gridava gol in continuazione, ma erano tutte traverse, pali, fuori, e poi a un certo punto ci siamo accorti verso la fine che non stava guardando assolutamente gli europei, ma stavamo guardando una partita registrata. Perché? Perché non ci vede niente. Ah, ho capito, quindi insomma la situazione non è tutta rosa fiori lì al villaggio. Ecco, però una figura come Gargamella, per esempio, vi dà ancora problemi, oppure siete, diciamo, dopo tanti anni siete riusciti a entrare in sintonia con no, lui? No, ma Gargamella a me ha sempre fatto tanta tenerezza, è una personcina a modo adesso, so che sta in casa di riposo. Ah, sta in casa di riposo? Sta in casa di riposo, sì, lui con la sua gatta, gliel'hanno cambiata 5 volte, lui non si è accorto, perché se poi gli animali muoiono, no? Si ammalano e muoiono, però lui non si è accorto di niente. E so che c'era molto affezionato a Birba, però è morto già 5 volte da quando è in casa di riposo. Lui ne porta sempre un gatto diverso e lui crede sempre che sia Birba, comunque. Sì, ogni tanto dice qualcosa sui puffi, però no, lui è lì, no, vabbè, insomma, ma è anziano. Vabbè, immagino che anche lui abbia i suoi annetti. Quindi, vabbè, tornando a noi, diciamo, la partita di questa sera riuscite a vederla oppure no? No, non la possiamo vedere, e lo sai perché? Perché il maxi schermo serve al grande Puffo, perché lui dice: io sono il grande Puffo e ho bisogno del grande schermo. E quindi cosa succede? Lui è riuscito a introdurre il grande schermo a casa sua, nel suo fungo, e lui sta tutta la sera a guardarsi la partita. Noi dobbiamo guardarla da fuori, se riusciamo a intravedere qualcosa dalle finestre, perché oltretutto lui tiene tutto chiuso, nonostante sia estate, fa anche caldo, si vede che è spiegata anche la sua sudorazione in questo caso, eppure noi non riusciamo a vederla. Quindi io non lo so, adesso stiamo cercando di andare a casa di Puffo Vanitoso, che ha comprato uno schermo che dovrà essere il più bello di tutti, e cerchiamo di dividerci un po' nel villaggio tra lì e la finestra di grande Puffo. No, guarda che non è una bella situazione. No, beh, certo, capisco. Vabbè, ringraziamo allora Puffetta, grazie per essere stata con noi, e niente, se vuoi riascoltare questa intervista chiaramente la potrai sentire su Runtime Radio. Ma quale intervista, scusami? Ma io non ho firmato nessun consenso, però. Sì, no, appunto, stavo spiegando che poi andiamo questa sera in diretta. No, ma quale diretta? No, non avete capito? Cioè, la mia voce in diretta, no, capito, in radio. Sto, no, sto cercando di spiegare, scusate, che io non ho firmato niente. Vabbè, sì, no, ma questo no, caso no, assolutamente, no, però queste cose non stanno bene, di Querelo. Querelo anche voi, Querelo Runtime Radio. No, mi dispiace, Querelo Runtime Radio. Va bene, ringraziamo Puffetta, grazie, linea allo studio. E vabbè, alla fine ci rimettiamo noi, insomma, questo è un po'... Io però volevo dire una cosa, apprezzabilissimo lo sforzo di camuffare la voce di Puffetta per non farla riconoscere, esatto. Giusto, però di Puffetta ce n'è una sola. Esatto, quindi alla fine Puffetta, mi dispiace, ma lo sanno adesso nel tuo villaggio, poi ce lo siamo sempre domandato tutti, però. Sì, soprattutto, ma la davi a tutti? Sì, una volta mi piacerebbe di parlarci di certe cose, infatti, perché poi sono immagini che riguardano la nostra infanzia e via dicendo. In realtà i puffi, come spiega Donny Darko, sono asessuati, ognuno sceglie il suo genere come apparire, però è solo Puffetta ha scelto quello femminile, allora è perché mica è stupido, almeno si diverte. Comunque in questi ultimi secondi di partita l'Italia sta morendo ad ogni piede spinto, praticamente si sta a fare la scena del morto, però sì, insomma, diciamo si stanno anche immolando, visto gente che si butta sulla palla. Ma in realtà sì, noi avevamo 5 minuti di recupero che probabilmente saranno diventati 7-8, visto che a un certo punto Donnarumma ha fatto la sceneggiata, ma soprattutto perché sento esternamente a noi nessuno sta dicendo niente soprattutto però... perché abbiamo superato di 15 secondi, esatto, secondo il nostro criterio, personalissimo, anche cartellino, il nostro, anche il recupero, insomma, per il recupero, quello dico, quindi... probabilmente diventeranno 7-8 perché veramente si è perso tutto. Addirittura 7-8 è inquietante, sento, continuo a non sentire in giro niente, questa è la cosa che mi terrorizza. Intanto parlando di Puffetta, Arturino dice: lei non ha scelto, è stata creata apposta, e lì si potrebbe raccontare il fatto, però è una cosa più da OGM, che Gargamella l'aveva pensata brunetta, bruna di capelli, grande Puffo l'ha fatta bionda. Ora io sono stereotipi, però poi magari ne parliamo. Ma sai che ho visto un cartone animato, penso abbastanza recente, dove i Puffi entrano in un bosco magico, anche loro sono in teoria protetti da un bosco magico, però entrano in un altro bosco magico dove c'è un altro villaggio di Puffi dove sono tutte donne tranne uno. E quello è l'universo specchio dei Puffi. E lì praticamente so casini. Puffo Fortunello. Esatto. E lì è esatto. Orgelandia. Sai, dipende perché a Calla. Comunque, secondo me quel più 5 rimane là perché ogni secondo si aumentano di 5 minuti di recupero. Mamma mia, ragazzi. Attenzione. Finita. Ci dicono dalla chat. Giustamente Alex diceva, sta finendo, ma è finita. Che le cose stanno andando un po' al contrario. È la chat che dice a noi quello che succede. Esatto. Questa è interazione radiofonica. Come diceva Alex, ormai la radio è fluida. Non è che dobbiamo essere noi che diciamo le cose a voi. Può essere anche il contrario. Esatto, abbiate pazienza. Esatto. Comunque, niente, ragazzi. Abbiamo mandato a casa anche il Belgio senza colpo ferire, senza neanche dover fare gli straordinari, tra virgolette, senza supplementare. Adesso ci tocca la Spagna. Quando? Mercoledì le due semifinali sono alle 21. Ok, intanto questi suonano sotto. Comunque 7 minuti di recupero, cioè io non voglio di niente, insomma. È finita anche qua. E tutti si abbracciano. Qui è finita bene. Si abbracciano e sono tutti felici. Grazie. Basta con la base, per cortesia. Niente, no. Sono andati. Non è la base. Non è la base, sono loro che parlano. È un'altezza. Bello. La faccia di Lukaku è indicativa. È incazzato nero. Lukaku Coco. Esatto. Lukaku a casa. Uyeyeh. Casa Lukaku. Fortunello. Ci mette 7 minuti al recupero. E poi fa gol. Ringraziamo tutti gli ascoltatori questa sera di Runtime Radio. Grazie di essere stati con noi. Grazie ascoltatori. Anche se magari grazie. Avete guardato la partita e non avete ascoltato la radio. O se avete ascoltato la radio guardando la partita. È appena arrivato in chat Davide Gatti che dice che dobbiamo ringraziarlo. Grazie. Ok, ringraziamo Davide Gatti, non sappiamo perché. Ringraziamo anche chi ha guardato la radio ed ascoltato la partita. Che secondo me è l'emozione più... grande. Sì. Attenzione che abbiamo sentito il signor... Come si chiama il signor? Nessuno. Lanfranchi che parlava, diceva qualcosa. Ma lei grazie anche lei. Lei grazie. È felice, no, di questo risultato? Lo corroi con Lanfranchi. Ecco, l'avete mortificato. È mortificatissimo. Va bene, ragazzi. Ma io a questo punto, scusate, vorrei capire una cosa. La Loca è stata sterminata inutilmente? No, no, no, secondo me è stata la, cioè, Loca con i poteri meglio, cioè con i poteri più potenziosi, perché aveva previsto di sgarrare con i risultati e ha creato la condizione per morire. Esatto, già, cioè, lei, l'unica cosa che ha veramente previsto era la sua morte. Chiaro. Sì, sì. Ah, perciò diceva Odor, ok. Così diceva Odor. Va bene ragazzi, Runtime Radio come sempre vi fa compagnia, come ha fatto durante questi ultimi 2 anni, cercando di stare sempre insieme, cercando di creare iniziative, stare in compagnia con voi. Ci sentite o non ci sentite non fa niente, capiamo che con la fine del lockdown e poi la gente va fuori, vuole sentire il caldo, il fresco, abbracciarsi con tutti gli altri, ma non lo fate troppo ragazzi, perché attenzione, bisogna sempre stare un po' vigili, ma abbracciatevi a distanza, esatto, abbracciatevi assolutamente, che vi fanno le multe. Io vi do l'appuntamento a... Beh, prossime semifinali sono mercoledì alle 21 in contemporanea. Avremo Spagna-Italia o Italia-Spagna, che dir si voglia, e domani sapremo l'altra semifinalista. Benissimo. Mercoledì. Okay. Ore 21, quindi 20:45, sempre qui su www.rantemeredio.it. Torneremo con Euroludica, cercando di portare ancora un altro pizzico di fortuna a questa Italia e raccontando storie sulla Spagna. Allora, scusate, chiedo scusa, ha ragione. Prego. Francesco, ho letto malissimo io dal display. Quindi? Martedì c'è la prima delle semifinali e la mercoledì c'è la seconda. Vabbè, allora ve lo diciamo domani, quando c'è l'Italia. Ma no, l'Italia dovrebbe giocare contro la Spagna, quindi martedì, ok, perfetto. È bello fare il finale che non sappiamo neanche. Ma tanto è andata così. Tutto a casaccio. Io ringrazio e saluto per la sua collaborazione, per tutti i contenuti che ci ha portato, Marco Gualdi. Grazie anche al signor Dieter, che è rimasto chiuso, poverino. Che non sa che lo chiameremo anche martedì a questo punto. Ma cioè, avvertiamo alla polizia. No. Ma quello stava lì porino. Ma vuole andare a vedere l'Italia. Ragazzi, ho capito, ma la televisione è fatta, anche la radio è fatta di sacrifici, è fatta di opportunità. Ma magari lui voleva andare a vedere l'Italia, il poverino. Bene, bene. Ringrazio e saluto Walter Sbano. Grazie a voi ancora per avermi fatto compagnia stasera. E approfitto per girare i saluti a tutti quelli che ci hanno ascoltato in chat, che erano veramente numerosi. E ringrazio e saluto le stupide creature. Ringrazio e saluto Francesco Di Muro. Ciao, non vedo l'ora che finisca tutto questo. Addirittura. Poi in realtà stavo provando a fare il collegamento che dovevo fare prima. Ma non c'ho la linea, quindi comunque non l'avrei mai potuto fare. E ringrazio e saluto tutte le persone che ci hanno ascoltato in chat, tutte le persone che hanno collaborato e gli amici che continuano a sostenerci, e soprattutto tutti coloro che vanno su runtimeradio.it durante la nostra programmazione costante giornaliera 24 ore su 24, ma soprattutto quelli che ogni tanto, se gli dovesse capitare, andare sul pulsante anch'io e sostenere la radio, che si sostiene comunque, perché noi alla fine non chiediamo, però se volete dare, insomma, ci fa sempre piacere, anche noi perché pretendiamo sostenere un progetto come questo che va avanti oramai praticamente da 10 anni, è un dovere civico quasi. Chi ce lo fa fare? Io volevo chiudere la puntata con questa immagine di Mancini, che adesso in conferenza lo stanno intervistando. Anche quando vince c'è questa espressione del disprezzo, non riesco a capire perché. Ma perché lui, tu non lo sai, ma lui lo sa. Lui lo sa. Ok? E infatti se n'è andato. Esatto, col disprezzo. Va a far culo, esatto. Okay. Buonanotte a tutti, grazie. Buonanotte.